Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Sono le 15 in punto, buongiorno, ci siamo con il dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, i grandissimi protagonisti ma anche consumi, tecnologia, libri. Nella terza ora dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, sono qui in diretta su Radio 24 ma anche voi tenetemi compagnia, ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, lo sapete, l'SMS di Radio 24, e poi il mio account di Twitter, comodissimo, io ho qua davanti il mio tablet, chiocciola Marta Cagnola. L'hashtag sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio era lunghissimo, avrebbe preso tutti i 140 caratteri, quindi usiamo le iniziali, cancelletto ISDV. Ma tutte le trasmissioni serie fanno i giochi e io ho detto, ma perché il sabato del villaggio non ha un suo gioco? E finalmente da questo sabato abbiamo anche noi un piccolo gioco, è molto carino, potete portarvi a casa il Trivial Pursuit letterario, il primo Trivial Pursuit letterario. Ovviamente questo gioco lo faremo con Alessandra Tedesco nella seconda ora del nostro sabato del villaggio. Io ve lo dico già, risponderete via SMS, non vi posso ancora svelare nulla, state con noi. Vi posso svelare invece quello che succederà, gli argomenti che affronteremo almeno nella prima ora fino alle 16 del sabato del villaggio. Nella vita reale vanno ancora di moda? Io non lo so, ma in TV sicuramente è un'invasione. Cerchiamo di capire perché su qualunque canale si parla di matrimoni. E poi le tecnologie con Enrico Pagliarini. Oggi parliamo di wearable devices, cioè la tecnologia che si indossa. Le uscite al cinema con Franco D'Assisi e tutti i consigli per il weekend in sala. Ma subito andiamo a conoscere il conduttore, ma anche l'attore del momento. Il conduttore dello show record delle ultime settimane, perché la televisione, lo sappiamo, cambia, non sono più solo le TV classiche, i canali free, quelli di cui si parla tra amici e colleghi, ma subito una musica che chissà se la riconoscete già. Conosco già a memoria l'inedito di Lorenzo, uno dei finalisti di X Factor. Io sono molto emozionata perché lui è uno dei conduttori più bravi della televisione ma anche della radio italiana, quindi ho un po' di ansia da prestazione. Buongiorno ad Alessandro Cattelan. Ciao Marta! Ma che meraviglia! Come cioè adesso stai? Sono tutta agitata. Io bene, ma appunto ho un po' d'ansia perché parlo con te, insomma, è uno dei più... Io voglio vincere il Trivial letterario. Allora devi aspettare la seconda ora. Guarda che mi sa che saranno difficilissime le domande. Ma io sono preparato. Sei preparato? Lo so che sembro scemo, però guarda senti. Ma poi posso dire, cioè, quando fai le domande in inglese, ma quanto sei bravo? Così tata fa domande, traduce. Sono tattiche che ho imparato ai tempi del liceo. Parlo veloce perché la gente non si accorga degli errori. Quindi no, parlo molto veloce, sembra che tutto vada bene. Senti, io ho messo l'inedito di Lorenzo, ma non voglio proprio super parte. Se ho messo Lorenzo, l'ho messo, sai perché? Perché ho davanti le quotazioni della SNAI che dà Lorenzo a 2,75, Mad a 3, Ilaria a 4 e Mario a 4,50. Queste sono le quote SNAI. Sì. Io non me ne intendo moltissimo, però noi siamo super partes, ma queste sono le quote. Ecco, invece i numeri, diamo un po' di numeri. La semifinale è stata la migliore semifinale di sempre su Sky per X Factor. L'appuntamento che ha svelato gli inediti e i finalisti è cresciuto del più 46% rispetto allo scorso anno, con 1.200.000 spettatori medi su Sky 1, il 4,7% di share e una permanenza record del 67%. Wow. Ma tu sei uno di quelli che la mattina dopo sta lì con l'ansia per vedere i numeri? No, infatti lo so da te adesso, in realtà, tutti i dati che prendo da te, sono sincero, dati che prendo da te ora, no, non l'ho mai fatto, anche perché ho sempre un'opinione molto personale di quello che sei tu e quasi mai ha a che fare con i numeri. Se una puntata è andata bene o no, dal mio punto di vista io lo so nel momento in cui è finita, non ho bisogno di aspettare il mattino dopo. E se magari poi invece penso di aver fatto male una puntata, penso che una puntata sia stata noiosa, piuttosto che lunga, eccetera, eccetera, e i risultati però sono andati bene, quasi mi spiace, perché penso che ci siano state troppe persone che hanno visto una cosa che a me non piaceva. Cioè, quindi, c'è dell'affetto? Come? C'è dell'affetto, hai un rapporto più sentimentale con la trasmissione. Sì, esatto, cioè io cerco di fare le cose bene, poi purtroppo non posso controllare i telecomandi della gente che sta a casa, quindi... però quando uno fa le cose bene poi può essere solo che contento di quello che ha fatto. Ovvio che più gente la vede meglio è, quando va bene, e quindi direi che siamo tutti felici. Concluse le puntate all'X Factor Arena, adesso c'è la finalona, sì. che impressione fa la finalona nel forumone? No, bello, cioè sempre per questo approccio fondamentale, sentimentale, un po' mi spiace aver lasciato l'X Factor Arena, smontare i camerini, cioè comunque i mesi di X Factor sono mesi intensi, quindi diventa proprio casa, e quindi mi è dispiaciuto abbandonare casa. La finale al Forum sarà sicuramente strepitosa come è stata l'anno scorso, X Factor credo che sia il primo programma che ha portato una finale, comunque una delle sue puntate, un programma televisivo lì al Forum, ed è il posto che si merita, perché c'è un'attesa per questo programma che a volte faccio anche fatica a comprendere. È veramente paragonabile soltanto all'Italia quando gioca i mondiali, cioè non ho mai sentito in giro per strada un'attesa così grande come per X Factor. Quando parte iniziano a chiamarmi persone che non sentivo da anni perché vogliono i biglietti per venire a vedere dal vivo. E lì lo capisci, perché ti chiamano e fanno: ciao Alessandro, come stai? Senti, volevo chiederti. No, c'è un'attesa spasmodica da parte di tutti. Sarà un bello show, io sto di sopravvivere, perché ad oggi credo che farò il mio ingresso sospeso a 20 metri sopra le teste del pubblico. Bello, dai, acrobatico. Io non lo sono molto. L'ingresso sarà acrobatico, io non molto, quindi spero di riuscire a resistere. Alessandro, devo farti per forza una domanda, ma prima devo mostrare un brevissimo video alla radio. Io di solito mostro i video alla radio. Breve, breve, eccolo qua. Vi devo chiedere chi volete eliminare. Morgan, devo partire da te. Sì, lo so benissimo. Che Dio mi aiuti. Va bene, sono tanti anni che faccio questa trasmissione e conosco le regole. Mi dispiace molto perché, come al solito, la guerra fratricida è la più ingiusta. Lo è stato negli Stati Uniti durante la secessione e lo è anche adesso. Io credo che quello che sto dicendo è puramente arbitrario, cioè aleatorio. Cioè è come se tirassi un dado. Elimino gli Split for Five, però... lascio X Factor per sempre. Arrivederci. Credo di non c'entrare nulla più con le, diciamo, le derive che ha preso questa trasmissione. Vi ringrazio, è stato bello. Edito di Mad, giusto, perché appunto siamo super partes. Alessandro, ma come fai a non avere l'ansia da Morgan? No, io non ho l'ansia da Morgan perché mi interessa un po', cioè nel senso, guarda, quando è successa quella cosa, Morgan è adorabile per tanti versi, è anche piuttosto complicato lavorarci per altri. Io però sono una persona che si lascia abbastanza scivolare addosso le cose non importanti, e questo secondo me non lo era. Addirittura mi ricordo quando è andata in onda quella puntata con questa dichiarazione di Morgan che diceva di abbandonare il programma, io sinceramente dentro di me non ho avuto il dubbio nemmeno per un attimo che giovedì dopo sarebbe ritornato, e infatti così è stato, tanto che a un certo punto avevo anche letto, mi pare, Selvaggia Lucarelli prendersela perché non avevo cavalcato la polemica del momento, e infatti in quella puntata dopo che lui dice quella cosa io dico una roba tipo: sì, vabbè, dai Vicky, passiamo, sì, a te, così. Sì, è vero, tu tranquillo proprio. Ma sì, perché A, perché è un gioco, B, perché è una cosa che ha già detto 100 volte, cioè B, cioè C, perché non amo cavalcare le polemiche, non amo neanche farle, anche quando al tavolo i giudici litigano è una delle cose che io cerco sempre di stemperare, nonostante la regola aurea della TV è far litigare le persone il più possibile. Io quando vedo che iniziano a bisticciare cerco di andare avanti, perché il litigio in TV è proprio una cosa che mi annoia terribilmente, credo che il pubblico non si meriti un po' di meglio, e quindi cerco di passare un po' avanti a queste cose qua, però fanno parte dello show, fanno parte del carattere dei fanno parte di Morgan in questo caso specifico. Ecco, no, la tranquillità deriva dal fatto che non avevo dubbi che sarebbe tornato il giovedì dopo, quindi fantastico, tu imperturbabile, va tranquillo, sì, proprio perché sì. Sì, io sarei morta lì di ansia, ma mille volte, ma no, mica solo no, quella volta lì. Vedrai che se lo conosci un po' poi anche tu reagisci. No, ti confesso che lo conosco assai, perché essendo io di cioè vicino a Monza, sono tipo ma ci conosciamo dai tempi del liceo, quindi per questo io avrei l'ansia, capito? Proprio perché lo conosco da quei tempi lì, ma mica a caso te lo dico. Senti Alessandro, una cosa che io seguendoti su Twitter ho avuto l'impressione, tu hai molto molto amato e poi c'è Cattelan e PCC, cioè sì. Quella dimensione lì è, secondo me è quella che tu vuoi curare di più e tenere più cara anche per il futuro, cioè quella di fare il conduttore. Sì, se potessi scegliere io, sì, cioè io sto lavorando perché questo diventi poi il mio lavoro, ci sono programmi che sono appunto un lavoro, ci sono programmi che vivi con tutto un altro trasporto, e poi c'è Cattelan, è proprio il mio bambino, è figlio mio, cioè è il coronamento di un sogno, no? Avere il mio programma dove posso essere me stesso, dove posso interagire con chi viene lì bene, un programma che dal mio punto di vista ha come unico obiettivo di, non è un programma comico, è un programma che vuole far sorridere le persone, mandarle a letto come da tradizione dei late night col sorriso, perché ognuno ha i suoi problemi durante il giorno ed è bello arrivare appena prima di addormentarsi, vedere qualcosa in TV che sia gradevole, e quindi è una cosa nella quale metto tanto impegno, molto molto. Si sente anche appunto quando ti leggo su Twitter la tua partecipazione, non che in X Factor ce ne sia di meno, tutt'altro, credo che insomma, essendo un impegno così grosso. È una macchina, no? È come se fosse un pullman a bordo del quale siamo in tanti e ognuno fa la sua parte, eccetera. E lì è proprio casa mia ed è per questo che sono ancora più attento agli diritti delle persone lì, perché se... E per fortuna è stato sorprendentemente ottimo, perché se a qualcuno X Factor non piace, a me dispiace, però è un lavoro di gruppo. Se a qualcuno non piace il mio programma, non piace proprio io, perché lì sono al 100% me stesso. E quindi è una cosa alla quale tengo molto. Cinema, quest'anno sei protagonista dell'anticinepanettone, l'hanno definita, a me piace molto questa definizione, perché è il grandissimo team di Boris. Sì. Ho deciso che voglio fatturare come la Ferrero quest'anno, quindi faccio tutto quello che... No, è stata una provocazione della produzione, degli autori, anzi, del film, cioè, siccome non stavano riuscendo a trovare un nome che mettesse d'accordo la parte artistica e la parte produttiva di quel film, come provocazione hanno buttato lì, guarda, piuttosto prendiamo uno che non sa più fare questo lavoro, ci hanno scelto me perché sono la persona che non sa fare questo lavoro. No, mi hanno chiamato per fare un provino, io ho accettato perché sono molto molto fan di Boris e quindi volevo più che altro conoscere loro di persona, però ero molto sicuro che non mi prendessero, e devo dire che nella mia mente dicevo, guarda, anche se mi dovessero prendere, però probabilmente rifiuterò perché non è il mio mondo. Poi ai provini mi sono molto divertito, mi hanno raccontato del progetto in cui c'era questo cast strepitoso con veramente il meglio degli attori che si possono trovare nel cinema italiano, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Guzzanti, Caterina Guzzanti, Corrado, Pannofino, Lale Mastronardi... Laura Morante, cioè l'idea di recitare con Laura Morante, e quindi lì ho detto, vabbè dai, non mi capirà mai più una cosa del genere, e l'ho presa, ecco. Cioè, hai fatto tutto, vabbè, fai la radio, su Radio DJ, cinema, libri, cosa devi, non so, incidere un album adesso? No, basta, adesso devo andare in vacanza, che è la cosa che mi serve di più, e poi da gennaio si ricomincia, però insomma, io faccio le cose proprio con tranquillità per adesso, un passettino alla volta, faccio tutti i gradini della scala, ecco. Tutto per bene, mi piace questo ragazzo che su Twitter si definisce Tortona's Finest dal 1980, sì. Ed è una bio secondo me fulminante. Mamma mia, che emozione aver avuto Alessandro Cattelan a Radio 24. Un super piacere mio. Alessandro, io sarò là giovedì sera. Non ti dico per chi tifo, non si può dire. Cavolo. Io sì, sono là. Dai, tu puoi dirmelo, tu per chi tifi. Io non posso dirtelo. Guarda, l'affetto dice Mario e il futuro dice Mad. No, dico solo questo. Okay, ecco. Però io non ci becco mai. Quindi a te però te lo chiederò dopo, vabbè, perché sono curiosa di saperlo. Ci siamo abbastanza d'accordo. Vabbè, ecco. Diciamo altro. Grazie ad Alessandro Cattelan di essere stato con noi. Buon fine settimana. Un abbraccio Alessandro. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco. Ci sono tutte le indicazioni per chi sta viaggiando. Poi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Speciale Mami. Una madre, Diane, e suo figlio Steve, 15 anni, e seri problemi comportamentali. Ti rimetto io in piedi. Studierai a casa finché non sei pronto per la scuola normale. Solo l'amore e la grinta di Diane potranno far rinascere la speranza con l'aiuto della nuova vicina, Kyla. Spero solo che tutto questo duri, perché la vita con Steve è come un salto nel vuoto. Premio della giuria a Cannes, Mami è diretto da Xavier Dolan. Dal 4 dicembre al cinema. Fai muovere la tua impresa. Scegli Pantera, l'IRP col TH. Vi presenta Strade in diretta. Il traffico è intenso sin dalle prime ore di stamani sulla rete autostradale per i numerosi spostamenti in questo ponte dell'Immacolata verso le località di villeggiatura. Sulla 8 Milano-Varese aumentano le code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, auto in colonna per 3 km a causa di un incidente. Sempre un incidente ha provocato incolonnamenti di 3 km anche sull'autosole tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello. Sulla 22 del Brennero code tra Lavio e Affi in direzione Modena. Sempre sulla 22 del Brennero si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Verona Nord e Trento Sud in direzione Brennero. Sulla 7 Milano-Genova ricordiamo che proseguono i lavori dopo una frana, resta chiusa l'entrata di Genova a Bolzaneto in direzione Milano. È tutto, più tardi. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme dopo aver parlato di X Factor e del personaggio del momento che è Alessandro Cattelan. Torniamo a parlare di televisione. Intanto vi ricordo che poi giocheremo anche insieme per il Trivial Pursuit letterario. Sono molto curiosa, anche molto curiosa di sapere la domanda e di mettermi alla prova io per prima, se so la risposta o se faccio una figuraccia. Vabbè, insomma, abbiamo parlato di televisione, di grandi fenomeni. Ve l'ho anticipato, un filone che non si esaurisce mai, ma proprio mai. Ecco il promo dell'ultimo dei programmi di questo enorme filone. I matrimoni sono il trionfo dei sentimenti. Le spose sembrano tutte angeli. Sembrano. Hanno organizzato la giornata perfetta. Ma per qualcuna non lo è. Chi è che voleva mangiare la testa della sposa? Che brutta cosa. Perché l'imprevisto è dietro l'angolo. Ora, immaginate quattro spose che partecipano ognuna al matrimonio delle altre. È arrivato il macchinone. Per giudicare qual è il migliore. Non è vero, però. Poi è vero. Sono scatenate. Sono spietate. La sposa è ferita. Perché in palio c'è una sola esclusiva luna di miele. Chi sarà la vincitrice? Quella che vedrà scendere il proprio marito da questa limousine. Tutto questo è Quattro matrimoni in Italia. Quattro matrimoni in Italia su Fox Life, ma ci sono anche Tutti pazzi per le nozze sulla 5, beh, il boss delle cerimonie, che insomma famosissimo su Real Time. Qualche tempo fa su Facebook Davide Mengacci ha chiesto: se vi sposate tra settembre e dicembre volete condividere la vostra storia d'amore, scriveteci, perché ci sono, tornano ancora le nuove scene da un matrimonio di Davide Mengacci. Ci sono altri programmi che riprendono, ne parliamo dopo, ma voglio commentare questa invasione eterna di matrimoni in TV con un'amica che se n'è andata dall'altra parte dell'oceano, così già che ci sono controllo come sta l'autrice di Vogliamo la favola, Simona Siri. Buongiorno Simona. Buongiorno, è qui mattina, quindi c'è ancora un po' da sonno, però vabbè. Simona, no, ma anche perché così tra amici io controllo come sta andando in America, cioè lo faccio in diretta, ma lo facciamo così amichevolmente, tutto bene. Tutto bene, fa molto freddo, anche già nevicato, oggi un po' così, un po' piove solo, però fa freddo. Bello, poi twittaci una foto che la retwittiamo. Va bene. Simona, riesci a seguire ancora un po' di TV? Tanto ormai c'è, cioè, con i social, con lo streaming, uno anche dall'estero può seguire la vita dei media anche dall'altra parte dell'Atlantico. In realtà, sì, no, infatti, assolutamente sì, è fattibile. Poi, appunto, i programmi sui matrimoni sono la mia grande passione, quindi non li perderei per niente al mondo, nemmeno in Australia. Ecco, noi ne avevamo già parlato l'anno scorso in RadioTube, e quando ho deciso di parlare di matrimonio ho detto: no, dobbiamo per forza chiamare Simona Siri, appunto, per la sua passione, non solo per la competenza, perché, appunto, con Vogliamo la favola ci avevi raccontato, ma non solo con Vogliamo la favola, ma tutte le storie a lieto fine e le grandi storie d'amore. Raccontami perché questa tua passione, così cerchiamo di capire perché questa passione generale, tra l'altro forse è più una passione in TV che una passione, cioè la gente non si sposa più ma in TV tutti, perché Simona? Infatti io credo di non essere mai stata invitata a un matrimonio in vita mia, forse per questo che ho sviluppato poi questa passione per i matrimoni televisivi. No, credo che la mia generazione, diciamo quella dai 40, per tenersi vaga, over 40, ma anche forse più piccola, è segnata comunque dal matrimonio di Lady Diana. Io ancora mi ricordo il giorno in cui tornai a casa, era luglio, tornai a casa dalla spiaggia per incollarmi davanti alla televisione e guardarmi questo matrimonio che fu seguito da una quantità, milioni di telespettatori. Fu un evento mediatico incredibile. Io mi ricordo forse di più in realtà quello poi del principe Andrea, che però era stato uno spin-off un po' secondario, però esatto, perché tu sei più giovane, invece quelli come me, più anzianotte, no, siamo lì. Si ricorda nel matrimonio, quindi secondo me quella cosa lì ci ha segnato per diciamo la preadolescenza, l'infanzia per sempre. Poi sono anche una di quelle cresciuta con le famose favole sonore, quelle che infilavi il dischetto a mille ce n'è. E anche lì principesse, principi, storie d'amore travagliate, quindi diciamo che abbiamo un imprinting molto forte sulla favola, che poi è proseguito con Hollywood, i film, insomma le commedie romantiche che non si fanno più, ma quelli della mia generazione ci sono cresciuti invece. Quelli di adesso crescono, vabbè, c'è Twilight, insomma adesso c'è Hunger Games, ci sono, diciamo, declinazioni diverse, però un po' di favola c'è ancora. A proposito, è un po' generazionale. Sì. Su questo sono d'accordo. Devo dirti che prima, cioè, ci siamo abituati a tutte le declinazioni possibili dei format americani, ma c'è un format assolutamente italiano del quale voglio mostrare un brevissimo estratto alla radio. Ci siamo conosciuti a Casoria, a Napoli, sul corso principale. Non era mai andato a Casoria. Proprio quella sera si è trovata, secondo me era il destino. Mi senti dire: uè bello, fermati. E io mi feci un giro e la rincontrai. E da lì ci siamo iniziati a sentirci, a uscire, a frequentarci. Siamo stati 6 anni insieme e poi è venuta questa gravidanza e abbiamo deciso di sposare. Dovete essere felici tantissimi anni. E questi hanno sempre in buona salute. Simona, il boss delle celle, la scorsa settimana avevamo annunciato al Sabato del Villaggio in anteprima che Chef Rubio è stato esportato in Spagna, e però il boss delle cerimonie è arrivato in Polonia. Adesso noi esportiamo il boss delle cerimonie. Cosa il boss mi sembra meraviglioso. No, ma c'è tutto di noi. Esatto, perché tra l'altro l'altra cosa importante, secondo me è interessante, che queste trasmissioni sui matrimoni, ma i matrimoni in generale, il matrimonio come evento in sé, è in realtà una chiave di lettura sociologica molto, molto forte della società e del tipo di, appunto, dinamiche in atto in quella società. Le trasmissioni, è vero, sono le stesse, i format sono le stesse, ma se tu guardi voi parlavate di 4 matrimoni, mi sembra che l'edizione originale sia inglese. Direi di sì. Esatto, cioè quella inglese, poi c'è stata quella americana e poi quella italiana. Se tu guardi i tre format declinati nelle tre diverse versioni, sono completamente diversi, nel senso che ogni, e sono veramente una lente di ingrandimento sui vizi, sulle le dinamiche familiari, sulla struttura della società di una determinata nazione. Quindi gli inglesi, per esempio, hanno questa cosa del pub, quindi hanno matrimoni che si svolgono quasi esclusivamente al pub. Noi abbiamo il boss, gli americani hanno l'anello che deve essere almeno di 5 carati, se no non è vero amore. Insomma, sono tutte declinazioni diverse, sono molto divertenti, molto interessanti. In Polonia sarà probabilmente ancora diverso, ma sono molto orgogliosa che noi esportiamo questa cosa. Tra l'altro, grandi personaggi sono nati dai programmi sui matrimoni. Il primo l'abbiamo citato, Davide Mengacci, che è anche quello nel nostro immaginario di qualche anno fa. E poi un altro personaggio che ha fatto tantissima strada, anche tantissimi passi di danza, eccolo qua. Il mio è un lavoro pieno di insidie, ma io amo le sfide. Enzo è in vena di confidenze. Sono stanco ma contento. E ci invita a seguirlo dietro le quinte della sua vita. Parigi. Je vous laisse tous les adresses et l'expédition. Per mostrarci le pagine più belle. Ingresso perfetto. Lei commossa, lui felice. Del diario di un wedding planner. Da martedì 9 dicembre alle 22:10 su Real Time, canale 31. Il diario di un wedding planner, vabbè, insomma, Enzo Miccio è un altro di quelli che hanno preso il volo, appunto. Non so se dall'America hai seguito qualcosa anche di ballando, lì purtroppo non ha ballato tantissimo perché poi si è fatto male. Questi grandi personaggi, a te chi piace, Simona? Allora, devo dire che però io sono affezionata a Randy, che è quello di allora, qui in America si chiama Say Yes to the Dress, in Italia adesso non mi viene il nome, Abito da sposa cerca, ecco, Randy, che è, diciamo, il capostipite di tutti questi wedding planner, che però lui non è wedding planner, è più un direttore, è tipo un po' il Tommasini del matrimonio, cioè il direttore artistico del matrimonio, del vestito in particolare, la scelta del vestito in particolare. Sono molto affezionata a lui, a Randy, diciamo. Mi è piaciuto il Tommasini del matrimonio. Abbiamo appena parlato con Alessandro Cattelan, siamo proprio in tema, sì, X Factor ti tengo io. Ah, sì, fantastico. Sì. Per Ilaria, forza Vicky, forza Ilaria. Ah, ecco, allora vabbè. No, ma mi piace tantissimo il fatto che tu ti sei trasferita, però riesci a seguire tutto anche dall'America. È una cosa che mi piace molto, mi piace moltissimo. È molto, sì, molto bello. Un po' sballati, ma vabbè. Sì, non riesci a fare il live tweeting, oppure per fare il live tweeting devi farlo a orari assurdi. Sì, però insomma, qualcosa si fa. Senti, tu a che programma matrimoniale parteciperesti? Io non lo so perché non ho mai dato e non mi sento molto pronta per questo tipo di passo, non nel senso di programma di matrimonio, proprio nel senso di matrimonio. Tu a quale parteciperesti? Sono gli uomini a organizzare tutto. Ah, quando sono gli uomini? Sì. Non ditelo alla sposa. Non ditelo. Sai, ci stiamo sentendo peggio, però l'ho capito. Non ditelo alla sposa. Anche a me piace molto quando loro scelgono l'abito improbabile, le cose improbabili, e lei deve fare questa grande prova d'amore di accettare qualsiasi cosa. Che meraviglia aver sentito Simona Siri e aver controllato che sta bene anche in America. Simona, twittaci una foto, che così ci fai sognare un po' di essere da quelle parti lì con te. Simona, grazie per essere stata con noi. Continua a seguire tutte le cose italiane. La salutiamo perché la telefonata ha retto fino adesso, mannaggia il brutto tempo a New York. Beh, adesso ci twitta una foto con un po' di invidia da parte nostra. Grazie a Simona Siri per essere stata con noi e per aver giocato un po' parlando di queste tantissime trasmissioni che parlano di nozze, appunto. C'è più voglia di guardare matrimoni in TV forse che di sposarsi. Questa cosa è molto molto divertente, è un segno dei tempi. Noi abbiamo una brevissima pausa tra poco, ma vi anticipo che io già vedo arrivare in regia Enrico Pagliarini, che tra poco sarà con noi. È arrivato puntualissimo per parlare con noi di tecnologie, lo faremo tra poco insieme. E vi ricordo che invece più tardi giocheremo anche con Alessandra Tedesco. Vi ricordo ancora, per finire, il numero per i vostri SMS: 349-238-6666. E fatemi compagnia anche su Twitter, il mio account è @MartaCagnola, l'hashtag è ISDV, il sabato del villaggio. A tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme dopo una breve pausa al Sabato del Villaggio, il sabato in diretta di Radio 24. Starete con me, con Marta Cagnola, fino alle 18. Due ore di Sabato del Villaggio più un'ora di Sabato del Villaggio che si trasforma in Radio Tube con Daniele Bellasio. Ma in queste due ore abbiamo anche la compagnia di altri conduttori di Radio 24. Ci sarà Alessandra Tedesco, con la quale poi giocheremo. Ci sarà anche Maria Luisa Pezzali. Ma già accanto a me è arrivato uno di quelli che su Twitter è il più atteso. Io non lo posso. E mi è sparito tutto. Cioè, mi ha spento lui il microfono. Dire, no, faccio la sorpresa. Adesso non vi dico chi è. Ha schiacciato il bottone sbagliato. Buongiorno. È perché, cioè, da questa parte non che mi sa di tecnologia Radio 24, Enrico Pagliarini, mi ha spento il microfono perché in diretta. Di solito sono da quella parte, è sbagliato. E vabbè. Tu non hai visto che Filippo Aureggi in regia ti ha tirato fuori il cartellino rosso? Sì, è vero. I nostri tecnici hanno il cartellino giallo e quello rosso. Che l'hanno comprato apposta per i conduttori. Vabbè, volevo fare tutto una cosa, sorpresa, tutto. Eccolo qua, lo accolgo con una musica, vabbè, il bello della diretta. Intanto vi dico che ho chiesto una foto a Simona Siri da New York, mi ha mandato una foto bellissima su Twitter, andatela a vedere, il mio account è @MartaCagnola, veramente bella. Sono due, o abita effettivamente dove vede l'Empire State Building, oppure ha fatto una foto da una casa che vede l'Empire State tutte le volte la tweet e la, quando e uno la chiede, photoshoppata. Esatto. No, perché poi il cane è lì. È proprio il suo, è proprio Ugo. Vabbè, allora facciamo la presentazione con la musica con la quale volevo introdurti. Enrico, senti cosa ho scelto per te questa volta. Via. In regia non è contento di questa versione, perché voleva quella originaria. Invece degli è molto anni 80, bella questa. È bella, molto Physical, jazz. Certo, di Olivia Newton-John. In realtà Physical significava let's get physical, insomma andiamo un po' ai fatti. Sì, esatto. Però il video era lei che faceva aerobica, quegli anni, sì, la si faceva aerobica. Esatto. Lei, sì. Jane Fonda, Barbara Boucher in Italia. Parliamo un po' di allora, i nerd di solito non sono proprio sportivissimi. Come li mettiamo insieme, tecnologia, nerd e sport? Questo è un bel problema. Beh, allora, diciamo che negli ultimi anni, anche e soprattutto grazie agli smartphone, la tecnologia sta diventando molto popolare, tant'è che oggi si dice che praticamente tutti i telefonini siano smartphone. Quindi, visto che tutti si avvicinano anche alle applicazioni, esistono degli aggeggi che si connettono alle applicazioni per raccontarci tutto quello che noi facciamo durante la giornata, in termini fisici, di attività fisica. Avrete sentito parlare sicuramente di di tecnologia indossabile, di wearable devices. Allora, io dico che anche le cuffiette del Walkman di te erano una tecnologia indossabile. Proprio per tornare ai tempi di Physical, le cuffiette del Walkman di un tempo. Però questo concetto di tecnologia indossabile si è evoluto molto negli ultimi anni. Sono nati dei braccialetti che misurano tutte le nostre attività, si chiamano anche activity tracker, quindi misuratori delle nostre attività fisiche. Si sono aggiunti anche gli smartwatch, questi orologi tecnologicamente evoluti che si connettono con lo smartphone, però mi concentrerei più su questi braccialettini perché innanzitutto sono più economici che gli smartwatch, attenzione, che costano fra i 2 e i 300 euro con punte anche di 400-450. Più di un abbonamento in palestra. A questo punto uno dice, vabbè, è vero che gli smartwatch fanno molto di più, non solo misurano quello che noi facciamo, però a questo punto uno dice, vabbè, mi tengo il mio smartphone, visto che devono vivere in simbiosi con lo smartphone, però questo è un altro capitolo. Questi braccialettini, fanno tante cose, ad esempio, misurano l'attività fisica, quanti passi facciamo, se corriamo, se camminiamo, se stiamo fermi, quante calorie bruciano, ci sono degli algoritmi che riescono a calcolare questo, la distanza che percorriamo, perché alcuni di questi hanno il GPS, come dormiamo. Ah! E qui va detto una cosa importante: questi strumenti andrebbero indossati 24 ore su 24. Poi uno decide, fa quel che vuole. Può decidere di tenerli anche mentre corre durante la giornata, ad esempio impostando un allarme se sta troppo al computer, ogni, che ne so, ora il braccialettino, si chiamano anche smart band, fasce smart, il braccialettino dice, vibra, ti sgrida, ti dice guarda che devi andare a fare una cosa, una passeggiata, esatto. La stessa cosa può essere utilizzata, pensa un po', se tu dormi con una persona, che sia marito, la moglie o qualsiasi l'amante, altra persona, esatto, e ti devi svegliare presto per venire a Radio 24 all'alba, e lui o lei no, e lui, tu puoi impostare questo braccialettino in modo che vibri alle 4 di mattina, ammesso che tu non sia io mi spavento da morire, ecco, no, poi dipende se ti riesci a svegliare con qualcosa che ti vibra al polso. Io mi sveglio con un attacco cardiaco. Cioè, dai. E sulla, perché poi tutte queste cose finiscono nell'app di uno smartphone, anche sul computer. Ecco, però, ad esempio, una cosa che voglio chiederti, adesso sembra che tutti in realtà corrano per twittarlo. C'è la moda, tutti. Perché non è che queste cose sono affari tuoi, tu puoi decidere se condividere tutto e far sentire in colpa gli altri. Esattamente. C'è gente che tutti i giorni, io vedo, oggi ho fatto 5 km, oggi ho corso 8 km, e io dico, ma chi se ne frega? Però è un mega trend, cioè questa condivisione delle attività fisiche. Quindi pensa prima che un mio amico si è rotto la gamba, Giorgio Bozzo, un bravissimo produttore teatrale, musicale, si è rotto una gamba, povero Giorgio, ti abbraccio, qualche settimana fa, e ha twittato a un certo punto, oggi ho fatto zero passi. Sì, sì, insomma, comunque è un fenomeno interessante, anche perché poi da qui possiamo salire ad allargare lo sguardo, pensando che questi dati non solo li possiamo condividere con i nostri amici, ma potremmo anche in modo anonimo condividerli tra tutta la popolazione, e chi fa ricerca o addirittura lo Stato, il settore sanitario potrebbe fare delle ricerche anche per essere proattivo e anticipare alcune cose che stanno succedendo all'interno della popolazione. Però senza andare troppo in là, sono interessanti anche perché con una spesa tutto sommato abbastanza limitata, partiamo da una cinquantina di euro per gli strumenti più semplici, che sono proprio dei braccialetti, nulla di più, abbastanza spessi, non hanno display. Alcuni hanno il display, quindi saliamo un po' di prezzo. Però stiamo in una fascia tra i 50 e i 150, 170 euro, che insomma in alcuni casi possono essere un impegno finanziario importante, però non stiamo parlando di cose come gli smartphone, che costano molto di più in alcuni casi. Ormai ci sono anche smartphone da 99 euro. Sono interessanti, io consiglio di... Allora, ci sono tantissime marche. Sicuramente Jawbone, Fitbit sono tra quelli che hanno forse una gamma più vasta, sono specializzati in questo settore. Ci sono poi anche le marche tipiche dei navigatori satellitari come Garmin, che ha tutta una... Anche... Sì, da tempo. Diciamo che gli sportivi sono abbastanza esperti, però visto che questo è un fenomeno che si sta allargando sempre di più, è sicuramente una buona idea per avvicinarsi a questo mondo. Poi uno comincia a sperimentare, magari compra la cosa che fa un po' di più. Alcuni di questi prodotti si cominciano ad assomigliare agli smartwatch, perché quando un braccialettino ha un display sul quale tu vedi alcune cose, che ne so, l'orario, oppure se ti arriva un SMS, comincia ad assomigliare a un orologio. Certo. Però poi, e quindi c'è una fascia di questi strumenti che si mischia agli smartwatch. Altro capitolo, appunto, sono gli smartwatch, perché fanno molte altre cose. Anche in questo caso devo dire che per vedere il risultato di quello che noi facciamo, della nostra attività fisica, devi comunque avere uno smartphone o anche il computer, perché poi puoi usare... Quindi devono essere compatibili con quello che abbiamo? Sì, ci sono problemi, infatti, oppure... No, perché sai, mi sto immaginando che magari qualcuno ti ascolta e dice, potrebbe essere un regalo per Natale, Esatto. Allora, di sicuro da consigliare se siete adepti di una marca, potete anche, se esiste lo smart band, cioè il braccialetto di quella marca, potreste comprare. Però se, visto che molti di questi sono compatibili almeno con iOS e Android, è consigliabile comprare un prodotto che è compatibile con entrambi. Primo perché potremmo cambiare smartphone, secondo perché potremmo decidere di venderlo usato dopo un anno, magari perché lo vogliamo cambiare oppure perché non ci piace di più. Allora, se è compatibile con entrambe le piattaforme più diffuse, ce ne sono alcuni che sono compatibili con, anche con Windows Phone, molto pochi. Devo dire che Microsoft ha fatto un prodotto che è andato tutto esaurito solo negli Stati Uniti, perché di questi prodotti ne vedremo sempre di più, ogni tre mesi ne vengono annunciati, e sicuramente anche il prossimo anno vedremo una gamma che si amplia sempre di più, ce ne sono tantissimi. Quindi c'è un po' l'imbarazzo della scelta, anche in questo caso bisogna impegnarsi un pochettino, andare a cercare quello che noi vogliamo, però le funzioni di base le fanno un po' tutti, quindi misurare quanto camminiamo, se camminiamo stiamo seduti, alcuni addirittura ci misurano il battito cardiaco, che in alcuni casi può anche essere utile, e dopodiché si vanno a fare un po' di statistiche, quindi si vede, diciamo che se uno è molto sedentario potrebbe anche decidere di non prenderlo perché sennò uno ci rimane un po' male, però può essere anche uno stimolo per muoversi di più. Ma sono carini, no? Nel senso che io mi immagino, sì, magari. No, fa figo, no, avere lo smartphone carino, eh? Magari uno va in giro vestito, si possono anche indossare. Allora, sicuramente a me piacciono molto i Jawbone, anche se non li ho mai posseduti, li ho solo provati perché per un po' di tempo. Non ti muovi tanto? Perché sei uno di quelli che ha paura. Cammino molto. Tu cammini. A me dà un po' fastidio avere, io non tengo più l'orologio da anni. Ah, ok. Mi dà un po' fastidio tenere qualcosa al polso, quindi non sono proprio il consumatore ideale per questo tipo di prodotto. Magari poi decido un giorno di cominciare a usarlo e mi piace. Però ad esempio Jawbone fa dei prodotti effettivamente anche molto belli, quindi secondo me sarà una delle frontiere, perché ad esempio quando abbiamo parlato dell'orologio di Apple, lì hanno fatto il design, alcuni orologi effettivamente sono anche molto belli, ma ce ne sono anche alcuni che sono anche molto brutti. E quindi in questo caso, essendo una cosa indossabile, diciamo che l'elemento estetico è molto molto importante. E quindi è una buona idea, insomma, potrebbe essere una buona idea. Dopo aver parlato di quelli che vanno a piedi, in questo momento invece però è il momento di vedere come stanno andando le strade, perché ti dico solo che perché non è un elemento importante, la batteria per quasi tutti i modelli dura una settimana. Quindi non è che di notte devi stare, esatto. Questo è un elemento importante. Abbiamo sentito che c'era molto traffico nell'altro appuntamento con la viabilità, quindi importante sarà sentire anche adesso per tutti quelli che si stanno mettendo in viaggio in questo sabato del villaggio. Il sabato del villaggio. C'è il nostro ascoltatore che ha sempre questo nick, ma dimmi prima o poi come ti chiami, Kim Jong-un, che ogni tanto ci scrive e dice fingiamo di apprezzare il sabato del villaggio solo per ascoltare Enrico Pagliarini sempre che Marta Cagnola lo faccia parlare, ma se è lui che mi boicotta e mi chiude il microfono, ma pensa te. Tanto stanno arrivando dei messaggi al 349-238-6666 perché abbiamo parlato di matrimoni in TV, anche dei messaggi molto critici, perché c'è un ascoltatore che dice che lavora nel settore ed è offensivo il boss delle cerimonie, perché dice lavora nel settore ed è controproducente. E poi c'è Davide che vive in Svizzera e dice che lui vede prima le versioni straniere della TV francese sono meglio di quelle italiane e spera che i quattro matrimoni reggano il confronto, i quattro matrimoni all'italiana, insomma spero che lo veda il prima possibile, così ci saprà dire Davide. 349-238-6666 per i vostri sms e i nostri account di Twitter, @MartaCagnola, anche quello di Enrico Pagliarini e _Pagliarini. Enrico, abbiamo tre minuti per parlare delle app, le app del momento. Mi piacciono molto, allora, queste non so se sono del momento, però sicuramente mi piacciono molto tutte le app che, pensando anche un po' alla stagione sciistica che si sta aprendo anche se non c'è molta neve, mi piacciono le app che lanciano un messaggio d'emergenza in caso mi succede un incidente. Vabbè, utilissime. Utilissime. Sì. Ne stanno nascendo alcune molto interessanti. La prima che cito è Lombarda, perché è nata all'interno della regione Lombardia dall'agenzia che si occupa d'emergenza, che ha attivato da tempo, e purtroppo la regione Lombardia è l'unica in Italia che ha attivo il numero unico d'emergenza, che è il 112, un'applicazione che si chiama Where Are You, che ti permette di chiamare il 112. Il vantaggio è che grazie a questa applicazione al 112 arriva la posizione precisa, grazie al GPS, di dove sei, che le altre regioni si sveglino e attivino questi numeri, magari chiedendo come dire, supporto alla regione Lombardia, che l'ha già fatto. Anche questa applicazione è già fatta, basta utilizzarla. C'è una bella applicazione che si chiama Crash App. La si trova sia per iOS che per Android. Devo dire che per Android l'ho provata questa mattina, bisogna scorrere, era la 112esima, quindi bisogna andare bisogna avere un po' di pazienza, perché effettivamente forse non è molto conosciuta e molto scaricata. Crash App, poi magari la segnaliamo su Twitter. Crash come crash, lo scontro, app come app, che è semplicissima. Tu imposti un numero al quale mandare un messaggio in caso di emergenza. Grazie all'accelerometro che c'è dentro allo smartphone, se ho fatto le prove, cercando di non distruggere lo smartphone, sul letto buttavo fortissimo la questa. Allora, in caso di scontro piuttosto forte, l'applicazione dice: ah, successo qualcosa, ti chiede se effettivamente è successo qualcosa di grave. Se non rispondi, lancia l'allarme. Ma dopo puoi impostare dopo 15 secondi, 30 secondi. Se no, tu dici: no, guarda, non è successo niente, sono caduto, pure mi è caduto lo smartphone, eccetera. Il problema è che se per caso ti cade lo smartphone dal balcone, ammesso che resista, lancia un allarme, arriva magari la zia e dice: ma ti sei fatta qualcosa? No, mi è caduto al telefono, sì. Però diciamo, il trend è interessante, molto molto, e penso anche molto utile. Mi piacciono molto queste app che hai segnalato, Enrico. Adesso le twittiamo, perché così i nostri ascoltatori ce le hanno anche già scritte e già pronte per essere trovate dai loro smartphone e dai loro tablet. Grazie Enrico per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo al prossimo Sabato del Villaggio, invece 2024, domani alle 13, oppure in podcast, già disponibile. Straordinario, il podcast 2024 è sempre il più veloce di tutti. Pronto subito. Grandissimo, ciao, grazie ciao, Enrico. Ciao. Le nuove uscite al cinema. Ieri a dominare la top 10 il nuovo Woody Allen, Magic in the Moonlight, seguito da Scemo più Scemo 2, poi I Pinguini di Madagascar, quindi Hunger Games, Il Canto della Rivolta parte prima. Insomma, questo è proprio solo l'inizio del lungo fine settimana al cinema. La curiosità però ovviamente è tutta per Woody Allen. Vale la pena andarlo a vedere oppure no? Beh, lo chiediamo subito al nostro Franco D'Assisti. Buon pomeriggio Franco, andiamo a vedere Woody Allen oppure no? Ma guarda, se non fosse Woody Allen, intanto ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori, se non fosse Woody Allen mi verrebbe quasi voglia di dirti di no, però Woody è troppo importante, secondo me i suoi film vanno visti sempre anche quando non sono riusciti perfettamente come questo, anzi è un eufemismo il mio, perché Magic in Moonlight ha qualcosa che non gira. Troppa carne al fuoco, a mio modo di vedere, un film troppo scritto, troppo di testa e poco di emozione. Sono molti i momenti in cui, a mio modo di vedere, i dialoghi fitti fra Colin Firth e Emma Stone sfociano quasi in un filo di noia, dici basta, non ne posso più. E poi l'ambientazione, questa finta freschezza che arriva da questa Costa Azzurra Belle Époque, nella quale un illusionista, appunto Colin Firth, cerca di smascherare una medium truffatrice, finendo poi inevitabilmente per innamorarsene, ma insomma non svegliamo assolutamente niente. Sono situazioni che il cinema di Woody Allen ci ha già regalato più e più volte, quindi anche lì si rischia un pochino il déjà vu. Dopodiché è chiaro che ci sono, non potrebbe essere diversamente, alcune battute che sono sicuramente molto azzeccate, alcune situazioni anche molto divertenti, però mi sembra francamente un Woody Allen minore che conferma l'alternanza clamorosa dei suoi ultimi sei film, dove sempre ha un film importante, questa volta era stato Blue Jasmine, ne segue uno un po' più fiacco. Era capitato con To Run With Love subito dopo Midnight in Paris, Scoprirai l'uomo dei tuoi sogni subito dopo Whatever Works, Basta che funzioni. Sembra quasi che Woody non riesca a metterne due di seguito di buon livello, forse anche troppi film, sei negli ultimi cinque anni, ecco, forse anche lì bisognerebbe interrogarsi, ma i maligni dicono che deve mantenere troppe mogli, quindi insomma non ce la fa più. Senti, invece io ti confesso una debolezza, Franco. Xavier Dolan, cosa pensi tu di Mommy, da vedere? Guarda, condividiamo la debolezza verso questo enfant prodige straordinario del cinema. Sì, lui è canadese, ma insomma è un cinema del mondo, è un cinema universale, è un cinema d'autore di una, questo sì, di una freschezza vera, di una capacità di graffiare vera, che sta davvero spazzando il mondo dei festival fino adesso, perché poi lui in Francia e nei paesi francofoni è ovviamente già un grandissimo. Pensate che è del 1989 questo ragazzo, ha 25 anni, però ha già fatto 5 lungometraggi. Thomas Laferme a Venezia 2 anni fa era stato un caso clamoroso, molti, io per primo mi ci riconosco, lo avevano un po' paragonato al primo Bertolucci. Adesso questo Momi è ancora su un rapporto madre-figlio maschio, molto molto aggressivo, distrutto. È un regista, Fabio Dolan, che sa raccontare il dolore dei sentimenti, il dolore della vita, e la rabbia come pochi altri in questo momento, e quindi davvero un film da non lasciarsi sfuggire. Franco, per concludere, teniamo sempre d'occhio anche le uscite italiane. Io vedo questo Ambo, cosa ci dici? Ma guarda, è un esperimento interessante, è una commedia garbata, come la definisce Serena Utieri, che ne è protagonista e sarà anche nostra ospite fra poco, la Rosa Purpura, in un'intervista. È una commedia che non vuole far ridere attraverso situazioni sboccacciate o estreme, ma vuole strappare un sorriso ma anche una riflessione. Il tema è un tema molto delicato, che è quello dell'infertilità maschile in questo caso. È la storia di una coppia con un bambino, formata da Adriano Giannini appunto e Serena Utieri, che non riesce più ad avere il secondo figlio, e a un certo punto lui impazzisce, se vogliamo, comincia a chiedersi se anche il primo figlio sia davvero suo, visto che l'origine del problema è lui, e da lì si parte. C'è un Maurizio Mattioli che qualche battuta la regala sempre, quindi, come dire, si può anche sorridere. Magari, ripeto, non è una commedia super mega riuscita, però è un film che cerca, ed è un tentativo secondo me molto interessante, di entrare in un tema molto delicato in punta di piedi, senza voler per forza scuotere, ma facendo un po' riflettere, e mi sembra un film che tutto sommato si può consigliare. Grazie Franco, appuntamento quindi con La Rosa Purpurea dopo il GR delle 18, a dopo. A te, ciao Marta. Il sabato del villaggio. Ancora buon pomeriggio, quasi buonasera, perché si sta facendo buio qua, lo vedo dalle finestre della sede del Sole 24 Ore, ancora insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, con me Marta Cagnola nel sabato del villaggio, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, libri. Cosa succederà nella seconda ora? Beh, domani la prima alla Scala, cosa dobbiamo sapere del Fidelio? I libri con tutti i primi consigli per i regali natalizi di Alessandra Tedesco, questa volta consigli molto gialli, le nuove tendenze e le strategie anticrisi con Maria Luisa Pezzali, ma prima parliamo di una serie TV che fa notizia in Italia e nel mondo. Non è mia abitudine fare la guastafeste, ma il copricapo di carta proprio no. Non con il povero signor Bates che langue in prigione. Lord Grantham la pensa come voi. Il signor Bates, Lady Rosamund mi ha parlato di lui. L'omicida. Il signor Bates è stato ingiustamente accusato di omicidio. Tutto qui. Tutto qui? Io direi che è più che sufficiente. Gradite un tè? Grazie. Downton Abbey torna l'11 dicembre con Rete 4, la nuova stagione, la terza stagione l'abbiamo vista l'anno scorso in Italia, adesso arriva la quarta. La prima stagione, il naufragio del Titanic, la seconda stagione, lo scoppio della prima guerra mondiale, la pandemia di influenza spagnola e lo scandalo Marconi, la terza stagione, il periodo tra le due guerre e la formazione dello Stato libero d'Irlanda, e su tutto questa famiglia aristocratica inglese e la servitù. Grande, grande fascino per Downton Abbey, ne parliamo con un super esperto, Leo Damerini, chiocciola Leo Damerini su Twitter, autore del dizionario dei telefilm, La vita è un telefilm, direttore Telefilm Festival, fondatore Accademia del Telefilm, e come scrive su Twitter, Everything Telefilm Is. Buonasera Leo. Buonasera, ciao. Leo, perché questo grande interesse e questo grande successo di Downton Abbey, che ha ricevuto qualsiasi tipo di premio? Beh, innanzitutto la sceneggiatura scritta molto finemente da Fellows, che nel corso degli anni, insomma, è riuscita anche a rompere la diga americana, no? Se pensiamo che agli ultimi Emmy Award la serie con più candidature è stata proprio questa serie inglese, quindi vuol dire proprio rompere il predominio cosiddetto americano della lunga serialità, no? E poi in realtà è una grandissima tradizione inglese, perché Downton Abbey si basa fondamentalmente su una serie degli anni 70 che è Su e giù per le scale, che forse pochi si ricordano, dalla quale poi è stato tratto il film di Robert Altman, Gosford Park, che ha vinto l'Oscar, e la sceneggiatura di quel film era proprio di Fellows. Beh. Quindi è una lunghissima tradizione che dura da tantissime decadi, principalmente inglese, che sopravvive e mette in scena questa, come si era detto, famiglia aristocratica, però in realtà non è così distante dal vivere di oggi, no? Perché sì, tra l'altro la cosa interessante è che ha un sacco di fan molto importanti, cioè parte, vabbè, Principe William si poteva immaginare, ma anche Michelle Obama, addirittura Courtney Love, e poi ci sono queste grandi guest star. Noi abbiamo già visto Shirley MacLaine, Paul Giamatti, ma questa settimana su tutti i giornali e in rete le foto e le prime immagini di George Clooney. Cioè arriva George Clooney in Inghilterra. Esatto, sì, perché è una serie in realtà che fa da volano a molte celebrità, cioè esserci, addirittura ci sono delle star che si candidano, no? Via Twitter per esserci e per fare anche un cameo all'interno della serie. E come dicevo, in realtà è una serie che parla molto di attualità, non va vista come una serie storica, perché la Prima Guerra Mondiale che viene raccontata dentro Downton Abbey è in realtà anche qualcosa di minaccia del giorno d'oggi, no? Anche il rapporto tra servitù e aristocrazia. In realtà è un qualcosa di un mondo che non vuol cambiare rispetto a un mondo che in realtà sta progredendo. Quindi è tutto un simbolismo all'interno della serie, come in realtà in moltissime serie moderne, in cui ci sono trame e sottotrame che vanno lette anche con gli occhi di oggi. Faccio un esempio: sulla nostra pagina dell'Accademia dei Telefilm su Facebook, moltissimi fan hanno circa 20 anni, quindi vuol dire che è una serie che riesce anche a essere modernissima, pur essendo in costume, raccontando un'epoca che sembra lontanissima. Sono d'accordo con te, guarda, e a me non piacciono tanto né i film né le serie in costume, invece io Downton Abbey la seguo con grandissima passione. Dicevamo, dall'11 dicembre su Rete 4, in Italia cominciamo con la quarta stagione. Sì, sì, esatto, con la quarta, naturalmente poi in Inghilterra sta per essere celebrata la quinta, quindi insomma siamo comunque a una distanza che però in realtà con Downton Abbey non è così fondamentale come per altre serie, perché in realtà quello che racconta è incastonato in un'epoca, ma naturalmente quello che racconta, i grandi simboli, i grandi valori, i cambiamenti eccetera eccetera, sono un qualcosa di storico anche. Quindi io in realtà, se fossi un professore, la proietterei a scuola per raccontare anche certi grandi temi storici, però visti con gli occhi di oggi, perché appassionano veramente tutte le generazioni che la vedono. Leo, grazie per essere stato con noi. Io segnalo il tuo account di Twitter, che è @LeoDamerini, perché così si trovano tutti i tuoi riferimenti, l'Accademia dei Telefilm, il tuo sito, anche il tuo gioco, perché si è inventato un gioco in scatola, trovo un'idea molto molto originale. Grazie per essere stato con noi, quindi l'appuntamento con Downton Abbey in Italia l'11 dicembre. Grazie Leo e a presto. Grazie a voi, a presto. Beh, meraviglia, io non vedo l'ora che ricominci Downton Abbey, mi appassiona veramente tanto. Vi ricordo anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag del sabato del villaggio, che è cancelletto ISDV, il numero per i vostri sms che molto presto vi servirà, 349-238-6666. Adesso è il momento di andare a sentire ancora gli aggiornamenti del traffico del villaggio, come lo chiama Daniele Bellasio, che ci raggiungerà tra poco, ci raggiungerà alle 17 per Radio Tuba, tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Abbiamo parlato di una serie TV firmata, come ci diceva poco fa Leo Damerini, da un grande, grandissimo autore, Julian Fellows. Ora è proprio il momento dei libri, anche se dalla musica che mi hanno detto ha scelto la nostra Alessandra Tedesco, stavolta non c'è tantissimo sentimento, ma chissà. Ma fantastico, entriamo subito in un'atmosfera secondo me un po' gialla. Chissà quale sarà il primo libro di cui ci parlerà oggi Alessandra Tedesco, il libro di cui parlano tutti. Vogliamo sapere tutto, Alessandra, ciao. Ciao Marta, sì, è il libro di cui si sta parlando veramente tanto nelle ultime settimane, perché è uno dei libri più venduti. Io ti dico solo le iniziali del suo nome. Dai, facciamo questo giochino. GC. Caro figlio Gianrico, caro figlio. Non si chiama Gianrico lui? No, non me lo ricordo, perché una volta avevo visto il suo passaporto, ho avuto questo onore, no. E non si chiama Gianrico. Adesso però mi ucciderà per aver diffuso questa notizia segreta. A tenerlo segreto perché te lo sei dimenticato. Sì, sì, sì, me lo sono dimenticato. Infatti se andate su Wikipedia lo trovate come Gianrico caro figlio. Allora, Gianrico caro figlio, il libro di cui si sta parlando maggiormente in queste ultime settimane in Italia è La regola dell'equilibrio, pubblicato da Einaudi Stile Libero. Per la prima volta, caro figlio ha affidato il suo personaggio seriale, l'avvocato Guerrieri, non più alla Sellerio che l'aveva pubblicato appunto per tanto tempo, ma all'Einaudi. Stavolta l'avvocato Guerrieri si trova insomma in un caso piuttosto complicato proprio dal punto di vista morale, perché coinvolge un magistrato che presumibilmente è corrotto. Come tutti i romanzi di caro figlio con l'avvocato Guerrieri, in parte diciamo soprattutto ambientato a Bari, e quindi chissà perché, quindi insomma, io ve ne parte. Sono un po' di parte in questo caso, però vanno anche in trasferta a Lecce stavolta, perché il tribunale di competenza del magistrato sospettato di corruzione e Lecce. Vabbè, cioè all'estero praticamente. All'estero. Fra Bari e Lecce sai che c'è poi un, come dire, sì, un certo attrito. Però insomma questo è il romanzo italiano di cui si sta parlando assolutamente di più in queste settimane, come un po' tutti i romanzi di Gianrico Carofiglio, quando escono arrivano sempre alle vette delle classifiche. Gialli, i gialli vanno sempre di moda, siamo ormai, già la scorsa settimana abbiamo cominciato a parlare di regali di Natale. Regalare i gialli. Sai che un tempo a me regalavano tantissimi gialli del Nord Europa. Sì, ce ne sono ancora. I gialli in scandinavi, infatti, è stata una moda scoppiata alcuni anni fa, no? Vabbè, Stieg Larsson, un nome per tutti, no? Uomini che odiano le donne, insomma, c'è stata tutta insomma, i vari volumi che sono stati pubblicati. In realtà, come dire, la tradizione del giallo svedese è molto più antica, risale agli anni 70. I primi sono stati, adesso li pronuncio bene, May Chauvel e Per Valu, che sono praticamente, erano marito e moglie. Lui è morto insomma da un po' di tempo, lei è una simpatica vecchietta che va in giro con i vestiti a fiori, e avevano iniziato a raccontare la criminalità appunto della Svezia, perché tutti pensavamo che i paesi nordici fossero perfetti dal certo punto di vista del welfare, dello stato sociale. In realtà sono dei paesi ad altissimo tasso di criminalità, e da qui quindi, dagli anni 70, è iniziata questa tradizione del giallo svedese. È uno dei gialli svedesi, è quello di cui si parla maggiormente in questo periodo. Bene, bene, quindi altro consiglio mentale per gli acquisti, per chi volesse regalare ad esempio un giallo svedese, non da montarsi a casa in pacchi piatti, ma magari già pronto. E sì, insomma, uno dei romanzi di cui si sta parlando molto nelle ultime settimane è il giallo svedese della svedese Camilla Läckberg. L'ultimo titolo è Il guardiano del faro, naturalmente in classifica, pubblicato da Marsilio, perché insomma anche questa scrittrice ogni volta che scrive qualcosa, scrive i suoi gialli, arriva sempre insomma nel cuore degli italiani. In Italia è molto famosa, ma anche nel resto d'Europa, devo dire, vende parecchio. Famosa anche perché c'è una serie televisiva, mi pare, sulla F. Sì, la F trasmette questa, che è la televisione tra l'altro di Feltrinelli, trasmette questa serie di film che vanno sotto il nome di Giallo Svezia, insomma, in cui prende tutti i film tratti da libri di scrittori giallisti nordici, insomma, quindi c'è Mankell, c'è la Läckberg e ce ne sono anche altri, insomma. Per un amante della Svezia come me è favoloso. Ma passiamo a un po' di consigli amatissimi in questo periodo, perché secondo me a quest'ora c'è qualcuno in auto che sta cercando parcheggio davanti a una libreria. Intanto cosa consigliamo? Ne parliamo quasi in tutte le puntate. Cibo, food, i libri di food che uno vorrebbe regalare. In realtà questo non è propriamente food, ma parla, è la biografia di un uomo che è identificato moltissimo col cibo. parlo niente poco di meno che Joe Bastianich, che insomma giudice di Masterchef. Vabbè, Marta, tu sei preparatissima. Sta per ricominciare, questo. Peraltro. Sta per ricominciare, infatti. Poco prima di Natale inizieranno le puntate. E Joe Bastianich ha scritto con Sara Porro questa sua autobiografia, che è intitolato Giuseppe. Insomma, la sua storia, diciamo, di newyorkese poi trapiantato in Italia e viceversa. E la cosa simpatica di questo libro, Marta, che Bastianich, insomma, ha avuto anche un certo coraggio, una certa sincerità, perché pubblicare in Italia un romanzo che inizia con "Da bambino odiavo l'Italia". Spericolato. È veramente spericolato. Ma l'altra cosa simpatica di questo Giuseppino, scritto da Joe Bastianich con Sara Porro, pubblicato da UTET, è che alla fine c'è il vocabolario italiano Bastianich e Bastianich italiano, mettiamola così. E infatti, quando l'ho incontrato, gli ho chiesto: "Scusami, Joe, potresti spiegare un po' che cos'è questo vocabolario?" Ma sono tanti, dammi una sguardata, prendiamo una meno conosciuta, meno ovvia. Sì, le gomme di elastica. Se riesci a brevettare questo metodo di cottura della carne, sarà rivoluzionario nel mondo degli pneumatici. Non posso neanche... Che parola è quella? Pneumatici. Anche tu puoi dirla. Basta. E significa tutto ciò? Spiegalo con parole tue. Gomme di elastica, è come descrivo una bistecca, che è come mangiare le sciogliere delle tue scarpe, sono gomme di elastica. Sai, il vocabolario inizia di sforzare una persona che non parla una lingua, di avere interazione con persone italiane in un contesto molto familiare, fare battute, e io ho dei pensieri che mi vengono in inglese, in qualche maniera cerco di esprimermi in italiano, e ho imparato di non è minia, quando non ti viene la parola, inventila. Ma Joe Bastianich ci fa o ci è un po' cattivo come giudice? Tutti e due. Beh, io muoro quando parla Joe Bastianich. La ricordi l'imitazione meravigliosa? La radio YouTube l'abbiamo mandata in onda mille volte. Consigli invece per i bambini, per i ragazzi, preziosissimi. Allora sì, per questa settimana il libro per bambini si intitola Salta Bart. L'ha scritto Susanna Tamaro, che oltre a scrivere per adulti scrive moltissimo per bambini e ragazzi, pubblicato da Giunti Junior. Mi è piaciuto perché è una storia, insomma, la Tamaro se la prende moltissimo con l'ipertecnologizzazione. Vediamo se riesco a dirlo bene. Quindi ecco, non sarebbe una da RadioTube la Tamaro, perché no, la usa poco, no, la usa poco la tecnologia. No. Quindi si è immaginata questo bambino, chiaramente solo, il classico bambino abbandonato dai suoi genitori, perché i genitori viaggiano sempre nel mondo, e gli hanno impostato la vita tutta, come dire, programmata attraverso una serie di computer, di app che gli dicono cosa deve fare. Quindi questo bambino, nel momento in cui incontra per esempio una pollastrella, nel senso una vera gallina, pensa che sia quasi un Tamagotchi, e poi diventerà naturalmente la sua migliore amica. E Susanna Tamaro quindi ha voluto mettere l'accento in questo libro Salta Bart sui rischi di tecnologizzare troppo i bambini e i ragazzi. Sentiamola. I bambini hanno un rapporto con le cose elettroniche che sono molto diverse. Il pulcino Tamagotchi è un pulcino come Zoe, però non fa sentire la sua volontà in maniera imprevista come la gallina. Cioè, prendersi cura di un vivente o di una cosa elettronica cambia moltissimo il rapporto, che il vivente ci apre sempre alla vita, mentre la cosa elettronica, diciamo, si spegne in se stessa quando le batterie si scaricano. Dunque Bart è abituato a dominare le cose elettroniche, e quando vuoi le spegni, una gallina vivente non la puoi spegnere, anche quando magari vorresti farlo. E da lì è nato quindi il personaggio di Zoe, che devo dire è quella che dà, insomma, fa da spalla e viceversa con Bart, perché le parti più ironiche e divertenti sono esattamente quelle dove Bart è insieme a Zoe. Sì, io devo dire, non mi sono mai divertita tanto scrivendo come scrivo il personaggio di Zoe, che è un personaggio, siccome è esilarante, perché è un'anarchica, è pazzoide, e fa delle cose, il bambino è terrorizzato, analizza di quello che le dice, ma non è possibile, è la vitalità infantile, quella di cui è privato Bart, che ritorna, gli viene offerta come possibilità, diciamo, di salvezza. E poi è spiritosa, quando dice, si lamenta delle cosce grosse, insomma, veramente è un personaggio meraviglioso, Zoe. Sandra, io dall'inizio della puntata che anticipo che avremo un gioco, il modo per aggiudicarsi il fantastico Trivial Pursuit letterario, che a me già diverte tantissimo come idea. Dall'inizio della puntata dico: Alessandra Tedesco vi farà la domanda, poi voi ci mandate l'SMS e il più veloce a rispondere correttamente si aggiudica appunto questo Trivial Pursuit letterario. Poi ve lo dirò alla fine della trasmissione chi è stato il dito più rapido sullo smartphone. Marta, io farei, allora, sì, farei scegliere a te la domanda, perché come il Trivial ci sono vari colori, sì, eccetera, sì, sì. C'è letteratura nel cinema, non dico niente, letteratura antica, straniera, gialla, letteratura italiana e letteratura nel teatro e nella lirica. Che domanda scegli? Beh, io direi nel teatro e nella lirica, perché è il fine settimana della prima La Scala. Ah, vedi come sei preparata. Allora, colore arancione più o meno, insomma, questa è la domanda. Da quale soggetto ottocentesco Giacomo Puccini ha tratto ispirazione per la sua bohème? È difficilissima la risposta al 349-238-6666 per aggiudicarsi il nostro Trivial letterario. Alessandra, l'ultima cosa è l'appuntamento con il cacciatore di libri. Cacciatore di libri, questa sera alle 22 parleremo di festival letterari, più libri e più liberi, che è in corso a Roma. È una festa dei lettori, ma è anche una fiera della piccola e media editoria. Poi parleremo anche del festival del Courmayeur Noirin Festival della prossima settimana, e poi ci sarà uno scrittore sorpresa. A sorpresa, sorpresa. Da quale soggetto ottocentesco Giacomo Puccini ha tratto ispirazione per la sua bohème? Google. 349-238-6666. Il primo che risponde correttamente avrà il Trivial Pursuit letterario. Grazie Alessandra. Ciao Marta, grazie a tutti. Dalla banca in futuro mi aspetto ancora maggiore capacità di sostenere lo sviluppo dell'impresa. Sergio Dompè crede che una banca debba supportare la capacità progettuale di un'azienda e aiutarla a sviluppare nuove idee. Mestiere Impresa è il nostro modo di credere negli imprenditori italiani, come lui. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. Lo dice la sua natura. Lo raccontano le sue vigne verticali e un territorio unico, come la sua gente. Superiori si nasce. Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Lo tutela il consorzio della DOCG. Ci risiamo. Cellulare morto, musica caput e festa finita. Se il tuo smartphone ti lascia sempre sul più bello, passa al nuovo Huawei Ascend G7. Corpo in alluminio, fotocamera da 13 megapixel e batteria a lunga durata per rimanere sempre carico, come te. Nuovo Huawei Ascend G7. 24 happy hours. Sulle mani! Al suo primo compleanno tu non c'eri. La prima volta che ha visto la neve, nemmeno. Neppure la sua prima corsa è stata con te. Ma con te è pronta a ricominciare tutto. Con Audi Prima Scelta Plus. Nuova, si diventa. 110 controlli su ogni auto, dal più piccolo dettaglio della carrozzeria all'intero motore. Possibilità di finanziamento, 3 anni di garanzia e 2 interventi di manutenzione. Audi Prima Scelta Plus. L'usato senza il suo passato. Costi d'ingresso, costi d'uscita, costi ordinari, costi straordinari, costi di amministrazione, costi di negoziazione, costi di sottoscrizione, costi di sovrascrizione, costi di gestione, costi di indigestione, costi di benvenuto, costi di arrivederci, costi evidenti, costi nascosti. Sei sicuro di sapere quanto costano i tuoi investimenti? Vai su moneyfarm.com e crea in pochi istanti il tuo piano di investimenti personalizzato, senza costi nascosti. Meno costi, più guadagno. No? E fino al 18 dicembre puoi guadagnare di più. Scopri la promozione su moneyfarm.com. Moneyfarm, sei tu che ci guadagni. Stanno per arrivare i natalissimi Unieuro. Dal 9 al 24 dicembre, ogni giorno un prodotto delle migliori marche con uno sconto mai visto. Unieuro, batte forte, sempre. State ascoltando un programma offerto da Più libri più liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, dal 4 all'8 dicembre, Roma. Il sabato del villaggio. Me la sono rubata la schedina di Alessandra Tedesco con la domanda del trivia letterario. Non so ancora se è arrivata la risposta esatta al 349-238-6666. La domanda è: da quale soggetto ottocentesco Giacomo Puccini ha tratto ispirazione per la sua Bohème? Io ho scelto la domanda sulla lirica perché tra poco parleremo anche del Fidelio. Intanto vi ricordo, oltre al 349-238-6666, che è il numero per i vostri sms, anche il nostro contatto su Twitter, che è praticamente il mio contatto, @MartaCagnola, e per me è più rapido. Adesso vi twitto anche i titoli dei libri di cui abbiamo parlato con Alessandra Tedesco. Comunque vi ricordo che c'è anche il nostro podcast, che è disponibile da lunedì, per riascoltare tutte le puntate del Sabato del Villaggio e anche i nostri consigli, tutte le nuove tendenze in fatto di musica, tv, serie tv, cinema, ma anche consumi, tecnologia, appunto libri. Ma vi ricordo anche che staremo insieme dalle 17 alle 18 con il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ora però è il momento dei consumi e delle nuove tendenze. Per parlarne ci affidiamo alla nostra esperta Maria Luisa Pezzali. Oggi è una giornata particolare, noi continuiamo a parlare di shopping natalizio, chissà se ci sono dei consigli. Beh, insomma, bentornata, buon pomeriggio Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, a te e agli ascoltatori. Parliamo dello shopping natalizio, lo abbiamo annunciato, è iniziato ufficialmente lo scorso weekend, questo fine settimana però con la giornata festiva di lunedì rappresenta una buona occasione, perlomeno i negozianti, i commercianti ci sperano. Sai qual è, Marta, per molti il regalo più temuto? Bambini? Quello della suocera. Ah, beh, pericolosissimo. Molto pericoloso. Molto. Fonte di riciclo, però bisogna dire. Ah, cioè, ah, perfetto. Okay. Bisogna stare attentissimi a non farsi beccare. Esatto. Però, perché è pericoloso. E poi, sai qual è il giorno in cui ci sarà il picco degli acquisti? Quanti italiani compreranno online i regali quest'anno? Aspetta, sono tutte cose che sveleremo tra pochissimo. Prima però sveliamo un'altra cosa. Il colore del 2015. Quello che ogni anno decide il Pantone Color Institute. Pantone, lo sai, è la grande azienda americana, massima autorità mondiale nel settore dei colori. Forse non tutti sanno che ogni anno attraverso l'istituto propone una nuance diversa, appunto il colore dell'anno, dopo una ricerca, uno studio sui colori nel mondo della moda, dell'intrattenimento e dell'arte. Il 2015 sarà l'anno del color Marsala. Cioè, quindi, se io mi devo comprare una borsa, un maglione, un divano, devo comprare... Cioè, che cos'è un rosso? È un rosso molto caldo, molto raffinato, una tonalità che arricchisce la nostra mente, ha detto la direttrice dell'istituto, il nostro corpo e la nostra anima, emanando sicurezza e stabilità. Vabbè, tu sei bionda, ti sta bene quel rosso lì? A me non lo so se sta bene. Adesso lo cerchiamo, così twittiamo anche il color Marsala. Torniamo alle curiosità del Natale. Grazie a tutte le ricerche che ci sono arrivate in questo periodo, abbiamo raccolto l'ABC delle abitudini sullo shopping natalizio. Eccole. Non avete ancora pensato ai regali di Natale? Tranquilli, siete in buona compagnia. Secondo la ricerca commissionata da eBay a TNS, quasi 5 italiani su 10 non se ne preoccupano mai prima del mese di dicembre. Il 14% prevede di farlo solo nell'ultima settimana e il 3% aspetterà gli ultimissimi giorni disponibili. Il giorno di picco per gli acquisti sul sito è previsto quest'anno per il 15 dicembre e ad occuparsene saranno per lo più le donne. Il 74% di loro, contro il 29% degli uomini, infatti, dichiara di prendersi in carico tutto lo shopping natalizio, cibo e decorazioni incluse. Il regalo più difficile da scegliere? Quello per il partner, rivela la maggior parte degli intervistati. Il più temuto? Secondo un'altra ricerca, targata Van Privé, è quello della suocera, che vince su tutti, seguito da quello della vecchia coppia di amici di famiglia, campioni assoluti nell'arte del riciclo. Non meno scontato il regalo in cima alle preferenze delle donne, l'anello di fidanzamento. Ma fare regali è ancora un piacere o solo un dovere? Per più di 6 italiani su 10 resta un piacere, come per il 74% degli inglesi, il 75% degli olandesi e il 71% degli spagnoli. Noi però siamo i primi in classifica nell'autoregalo. 7 italiani su 10, in occasione del Natale, acquistano un regalo anche per se stessi. Secondo i dati Netcom, comunque, quest'anno gli italiani che acquisteranno i regali online sfioreranno quota 10 milioni, in crescita di quasi il 30% rispetto all'anno scorso. Abbiamo parlato dei regali online, dicevi nella scheda quota 10 milioni in crescita di quasi il 30% rispetto all'anno scorso. Chissà se c'è qualche strategia anticrisi che riguarda proprio l'online. Beh, dall'online, lo abbiamo sentito nelle scorse puntate, passano molte delle strategie anticrisi, un online che abbatte, sta abbattendo molti tabù. Nelle scorse puntate abbiamo parlato dell'acquisto online dei freschi, ad esempio, poi del vino, insomma, questa puntata del design online, ma non solo, perché poi i consigli che daremo riguardano anche l'offline. Lo facciamo, come sempre, in compagnia di Cristina Lazzati, la direttrice di Markup e GDO Week. Buon pomeriggio Cristina, ciao! Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Marta, Maria Luisa, eccoci qui con l'arredo.it e anche con qualche idea magari anche per la suocera, se non fosse di riciclo, magari carine. Diciamo che possiamo fare affari, anche se pensando ai regali di Natale dobbiamo sbrigarci, perché è vero che l'online è immediato nell'acquisto, un po' meno immediato nella consegna, poi col design sono sempre un po' ingombranti. Partirei subito con yox.it, che per quanto noi lo conosciamo tutti per le meravigliose scarpe stiletto, per l'abbigliamento firmato, ovviamente scontato, eccetera, ha anche un'area dedicata proprio al design, con le lampade ad esempio firmate a metà prezzo. Anche vogliamo allargarci un po' di più e possiamo, vogliamo rinnovare la cucina per Natale? Bene, Lago, il famoso marchio italiano che arreda intere case, ha proprio un suo outlet, outlet.lago.it. Anche qui a metà prezzo, ovviamente, a metà prezzo rispetto ai prezzi di Lago, quindi insomma diciamo che qualche decina di migliaia di euro comunque ci vogliono. Molto raro trovare nel settore un outlet online, Cristina. Guarda, un tempo era ancora più raro, non solo perché l'online non era così diffuso, ma oggi come oggi vediamo, c'è non so se gira voce, che c'è un po' di crisi e la cucina è uno dei settori che patiscono di più, per cui invito anche coloro che magari non ci contavano ad andarsi a cercare delle offerte online, perché ci sono, ce ne sono un po' di più. Ovviamente poi la cucina è un po' complicata perché le misure e quant'altro, insomma, diventa un po' una cosa da specialisti, soprattutto quando la vogliamo rifare completamente. Però di fatto c'è, se vogliamo trovare delle promozioni, ad esempio, sulle cucine, ma così come gli armadi, poltrone e quant'altro, però non ci fidiamo a comprarle direttamente online, si può invece andare su theclub.it, che è proprio una raccolta di promozioni che poi uno le vede e poi va a trovarsene in negozio, divisa per regioni, quindi la promozione ahimè in Sicilia e tu stai in Lombardia è un po' complicato, però invece se ti metti la Lombardia ti concentri con, e stai a Milano ti concentri su quanto è in offerta intorno. Per quanto riguarda oggettistica e pezzi cult, che cosa ci segnali? Guarda, sempre molto molto carino e molto particolare Love Design .com, dove c'è un design di tendenza, non sono i nomi soliti, ma sono nomi un pochino più particolari, tutto design italiano, giovani firme, tutto da guardare. Abbiamo pensato ai regali di Natale, appunto, poi con l'idea che dobbiamo pensare anche ai tempi di consegna, ma mi chiedo se nel design ci sono quei siti, non so, noi spesso siamo abbonati a quei servizi che ci mandano tutte le marche, le offerte, ci sono anche nel design? Assolutamente, chicchissimo, dalani.it, che sta circolando molto, una sorta di Groupon, ma molto, come dire, molto lifestyle, quindi c'è addirittura una rivista da cui si può cliccare e comprare, e una volta abbonati ci arriveranno, come succede con altri siti analoghi, le offerte con una scadenza, con dei tempi, insomma il funzionamento è identico, però siamo soprattutto sull'oggettistica, in questi casi i mobili sono pochi, ma sono oggetti di design. E si risparmia? Perché poi questa è la domanda che gli ascoltatori si fanno e io per prima. Sì, si risparmia e Soprattutto diciamo che se vogliamo dare un consiglio, stiamo attenti a non comprare cose che non ci servono. Le offerte sono appetibili, le cose sono molto belle, però chiaramente si viene sempre attirata dall'offerta e poi si rischia di mettersi in casa cose che non servono. Io lo faccio con i vestiti, Maria Luisa, mi arriva la marca che mi piace, non mi serviva e faccio. Ormai si dice che il vero oggetto di consumo in vendita è la promozione, lo sconto in sé, al di là di quello che ti serve. Questo deve far riflettere molti. Io intanto allora mi metto qui a twittare tutti i siti che ci ha dato Cristina Lazzati. Grazie Cristina per essere stata con noi anche questo pomeriggio. A sabato prossimo. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie a te Cristina. Ciao. Maria Luisa invece, l'appuntamento con te? Domani alle 15, essere a vere, non mancate. E sabato prossimo ancora col Sabato del Villaggio. Grazie Maria Luisa Pezzali. Grazie a te Marta, un saluto a tutti. Allora i siti di Cristina Lazzati io poi ve li twitto tutti, yux.it o yox perché così sappiamo anche bene come si scrive, lago.it, theclub.it, lovedesign.com, dalani.it. Mi stanno arrivando anche molti messaggi su Twitter che mi chiedono di ripetere i titoli dei libri segnalati da Alessandra Tedesco. Vi ricordo comunque che appunto lunedì ci sarà il nostro podcast, poi vi twitto anche i titoli dei libri. Erano Salta Bart di Susanna Tamaro, Il guardiano del faro di Camilla Läckberg, purtroppo non so come si pronunci correttamente in svedese, ma così lo trovate sicuramente, e poi Gianrico Carofiglio, La regola dell'equilibrio. Io comincio ad anticiparvi un po' il tema di cui parleremo tra poco. Vi do un po' di numeri, mi piace molto dare i numeri. Domani 7 dicembre ore 18 abbiamo tutti un impegno almeno per 2 ore e 50 minuti. Cosa succede domani? Beh, lo sappiamo, la prima alla Scala, io sarò lì per voi. No, non sono in abito da sera dentro il teatro, sarò semplicemente una cronista per raccontarvi tutto quello che succede per Radio 24. Domenica 7 dicembre alle 18, 2 ore e 50 minuti intervallo incluso appunto per il Fidelio di Ludwig van Beethoven. Il Teatro alla Scala di Milano, io ho controllato, ragazzi, ci sono ancora biglietti disponibili, basta andare sul sito del Teatro alla Scala, io ho fatto la prova. Sono un po' carucci, però se volete almeno fare la prova, io ho controllato, però ci sono anche le repliche fino al 23 dicembre, le date sono 10, 13, 16, 20 e 23 per questo Fidelio. I biglietti costano ovviamente per le repliche, perché insomma per la prima i biglietti da 15 euro insomma, credo siano la merce più introvabile del pianeta. I biglietti costano da 15 a 2000 euro, si acquistano appunto online. Fidelio di Ludwig van Beethoven, ma noi ne sappiamo qualcosa, sappiamo di cosa parla il Fidelio, sappiamo di cosa parleremo a cena a proposito del Fidelio di Ludwig van Beethoven. Vabbè, facciamo una cosa, noi ci risentiamo tra poco dopo la pausa per il traffico. Ancora una volta cerchiamo di capire com'è la situazione su strade e autostrade per tutti coloro che si stanno spostando ad esempio per andare a fare i regali natalizi. Noi un po' di consigli per gli acquisti mentali li abbiamo dati, ci ritroviamo tra poco per sapere appunto tutto, ma proprio tutto di quello che dobbiamo sapere del Fidelio di Ludwig van Beethoven, la prima alla Scala domani. Il Sabato del Villaggio. Dovete immaginarvi su queste note un plastico con un piccolissimo palco del Teatro alla Scala e poi il palco vero i lavori in corso, l'orchestra che comincia a provare con Daniel Barenboim, per queste sono le prime note del Fidelio che ci regala il Teatro alla Scala sul suo account di YouTube. Queste sono appunto le prime note del Fidelio che domani aprirà, domenica 7 dicembre alle 18, lo dicevamo, la stagione scaligera, il teatro più amato d'Italia, la Scala e non solo, dicevamo 2 ore e 50 minuti intervallo incluso per tutti coloro che avranno la fortuna di assistere alla prima alla Scala da dentro il teatro, ma si può guardare anche in altri modi. A Milano si può andare al Teatro Dal Verme, al Muba Museo dei Bambini, Rotonda della Besana, all'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele, all'Auditorium Gaber della Regione Lombardia, ci sono tantissimi posti e sono tutti sul sito del Teatro alla Scala. Ci sono anche 190 sale cinematografiche che trasmettono l'opera in Italia e in Europa. L'evento è curato da Microcinema, su Rai 5, la diretta dalle 18, ma dicevamo c'è un canale YouTube ufficiale che è youtube.com/teatroallascala. Lì ci sarà la diretta streaming, come anche sul sito internet www.teatroallascala.org, con un dietro le quinte. Io sono molto molto curiosa. Tra l'altro ci sarà anche la diretta Twitter con l'hashtag cancelletto prima scala. Dalla fine di ottobre il Teatro alla Scala ha superato i 100.000 follower su Twitter. Ma lo dicevamo, vogliamo fare bella figura, vogliamo sapere tutto del Fidelio. Cosa dobbiamo sapere di quest'opera che apre la stagione scaligera? Beh, insomma, lo chiediamo al nostro critico Armando Torno. Cosa dobbiamo sapere del Fidelio? Ma innanzitutto che è l'unica opera lirica che ha scritto Beethoven e ci ha messo un sacco di tempo, perché l'ha cominciata nel 1805, l'ultima edizione, chiamiamola così come si usa oggi, è del 1814. Ha scritto 4 volte l'ouverture che ha intitolato Leonore. E Fidelio però è Leonore travestita, cioè con gli abiti da uomo che viene confusa per un uomo, e chiaramente c'è anche Marcellina che si innamora di lui, ma la storia è molto bella, molto simpatica. È una storia accaduta realmente durante il terrore della Rivoluzione francese, quando una donna ha cercato di liberare il proprio uomo, quindi una sorta di amore coniugale, dalla prigione dove era stato ingiustamente incarcerato. E Leonore, che si traveste da Fidelio, fa appunto questo, va in un carcere, Beethoven trasporta la storia dalle parti di Siviglia, in un periodo che potrebbe essere la fine del Settecento, ma anche la fine del Seicento, poi molti attualizzano la storia perché poi è una vicenda sempre valida, e per liberare il marito, quindi questa sorta di amore coniugale, ecco, che si realizza con questa vicenda. C'è ovviamente l'innamoramento di Marcellina, che è la figlia del capo della prigione, del carceriere Rocco. C'è la, diciamo così, la vicenda del governatore che ha ingiustamente fatto imprigionare il marito di Leonore, e c'è poi quello che in fondo è il colpo di scena. Arriva un ministro e quindi, diciamo così, il cattivo governatore non riesce ad uccidere il marito di Leonore, che invece si salva, e sarà lo stesso Fidelio, la stessa Leonore, Fidelio è travestito, togliere le catene al marito e quindi a far trionfare quella libertà, che è un po' il significato dell'opera. Chiaramente è un'opera romantica, un'opera carica di significati. C'è la musica di Beethoven che la rende bella, sublime, interessante. 4 ouverture vuol dire sostanzialmente che domani noi ascolteremo quella che Beethoven ha scritto nel 1804, ma è la seconda, perché ne ha scritta anche una prima che non è mai stata eseguita, o almeno oggi si conosce, ma allora non venne eseguita. E poi di solito veniva messa la 3ª ouverture, la Leonore 3, prima del finale, ma questa volta Barenboim, il maestro appunto che dirigerà il Fidelio domani alla Scala, non la mette, ha deciso di non metterla in scena. Quindi vedremo un Fidelio ambientato in questo carcere di Siviglia, sotto la bacchetta di Barenboim, che realizza, diciamo così, un po' di desideri di Beethoven e parla di libertà. poi l'opera è stata intesa in ogni tempo, in ogni situazione, in ogni ambiente come simbolo di libertà. La intesero i regimi totalitari, la intesero le democrazie. Oggi cosa potremmo dire? La libertà forse è toglierci alcuni ceppi economici dell'Europa, e quindi Fidelio è ancora attuale. Se volessimo invece sapere qualcosa del cast, beh, la direzione straordinaria di Barenboim, che è molto amato, ma qualche curiosità sul cast? Ma curiosità sul cast, io vorrei sempre vederlo in scena. Teniamo presente però che Barenboim è molto amato e molto abile. Barenboim, rispetto ad altri direttori d'orchestra, diciamo pure che usa dei tempi più lunghi. Faccio un esempio banalissimo: la Leonora 2 che lui userà come ouverture durerà circa, diciamo, circa 15 minuti. Karajan se la sbrigava in 14, anche 13:50, quindi dava più ritmo, per cui anche la marcia militare che si troverà nel primo atto sarà leggermente più meditata, mentre in altre situazioni è chiaro che veniva, diciamo, più accelerata. Sono situazioni un po' diverse, un po', diciamo, da vivere con la musica addosso. Per la regia non si può dire ancora nulla di certo, bisogna vedere come sarà ambientato il carcere. Non c'è stata almeno una non c'è stata ancora un'anteprima definitiva che in qualche modo potesse mostrare tutti i giochi, tutti i movimenti, perché l'opera non è che sia basata sulla regia, l'opera è basata sulla musica di Beethoven soprattutto, e poi sulla vicenda della storia che si deve snocciolare bene, però questo è l'effetto che avremo domani sera, quando ovviamente si vedranno le scene, quando le luci daranno proprio l'effetto delle scene, quando i costumi entreranno in tutto questo, eccetera, eccetera. Posso soltanto aggiungere che il cast dei cantanti mi sembra buono, cioè certamente ogni Fidelio ha bisogno di cantanti abbastanza capaci. Dico soltanto una cosa che gli ascoltatori possono in qualche modo tenere presente: Beethoven verso il finale dell'opera comincia ad avere, almeno il finale dell'opera, il finale delle sue edizioni, diciamo 1814 è l'ultimo Fidelio, comincia ad avere i primi problemi di sordità, e quindi venne accusato di utilizzare le voci come strumenti, e questo in parte è anche un po' vero. Cioè Beethoven diciamo pure che non è un musicista come Verdi, Donizetti, Rossini, che conosceva perfettamente le voci, le assimilava un po' agli strumenti, e quindi con la sordità questo fa accentuare un po' i suoi elementi. Certamente possiamo dire, possiamo aggiungere che la musica è meravigliosa, insomma, e quindi domani ce ne renderemo conto. Il nostro Armando Torno ci ha spiegato tutto quello che dobbiamo sapere sul Fidelio. Prima citavamo l'account ufficiale di YouTube del Teatro alla Scala, youtube.com/teatroallascala, che ci regala anche questa interpretazione del Fidelio dell'amatissimo, lo dicevamo, Daniel Barenboim. L'opera Fidelio di Beethoven è, come sappiamo, l'unica opera che ha scritto. È stata trattata tante volte come un oratorio in scena, con la critica che dice che non ha un senso del drammatismo. Non è un'opera drammatica nel senso di certe azioni drammatiche o meno drammatiche di altri titoli, però è una delle opere più importanti di tutto il repertorio operistico, un'opera sul coraggio di una donna che non risparmia nulla per salvare la vita del suo marito, e tutto questo anche con sottointesi politici di crudeltà e altre cose. Veramente una serata straordinaria. Che fa fascino, che fascino. Barenboim, beh, ma anche il nostro Armando Torno, che da domani sera ci farà compagnia. Faremo tutte le cronache possibili e immaginabili in tutti i giornali radio di Radio 24 di questa prima La Scala, di questo Fidelio. Ma noi abbiamo qualcosa in sospeso. Abbiamo la domanda che ci ha fatto Alessandra Tedesco per aggiudicarsi il nostro Trivial Pursuit letterario, il gioco che così ci siamo inventati per celebrare un po', insomma, il Natale sarà un po' insieme. La domanda ce la fa Alessandra Tedesco nello spazio del sabato del villaggio, che è dedicato ai libri. Io ho scelto di parlare di lirica. Era difficile, la domanda era: da quale soggetto ottocentesco Giacomo Puccini ha tratto ispirazione per la sua Bohème? Giro la carta, e la risposta era Scene della vita di Bohème, romanzo di Henri Murger del 1851. Io so che qualcuno ha indovinato, non so ancora chi, io ve lo svelo nella prossima puntata del Sabato del Villaggio. Perché? Perché adesso io mi devo cambiare d'abito, perché tra poco la terza ora del Sabato del Villaggio è quella di RadioTube. C'è già con noi Daniele Bellasio, è già pronto per la terza ora dedicata all'attualità della rete e dalla rete. Ci risentiamo tra poco, perché adesso invece è il momento del GR24. La terza ora del Sabato del Villaggio, siamo insieme tutti i sabati dalle 15 alle 18, ma nella terza ora bisogna cambiarsi, mettersi l'abito da cocktail, perché è quasi il momento di RadioTube. Intanto abbiamo imparato dalla domanda del nostro Trivial Pursuit letterario che Giacomo Puccini ha tratto ispirazione per la sua Bohème dalle Scene della vita di Bohème, che è un libro del 1851. Non lo sapevo, ma qualcuno, mi confermano, ha risposto giusto. 3 4 9 2 3 8 6 6 6 6. E sempre un sms di una nostra ascoltatrice molto attenta, Adriana da Roma, dice: dobbiamo dire che i libri di Camilla Läckberg vanno letti in sequenza, perché le vite dei protagonisti un pochino fanno parte della narrazione. Vero, vero Adriana, vi ho twittato tutto, sia i libri di Alessandra Tedesco che i siti di Cristina Lazzati. Adesso è veramente il momento di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera e bentornati all'ora più bella del Sabato del Villaggio, quella con RadioTube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, Web TV e Social TV, finalmente con Daniele Bellasio, che arriva solo alla terza ora del Sabato del Villaggio, sì, perché se la prende con molta calma. No, perché le prime due me le ascolto e la terza invece poi dopo. Ti sono piaciute le prime due ore? Ti sei divertito? Guarda, quando c'è il podcast, perché le vorrei lunedì, sentire lunedì, lunedì arriva, anche lunedì arriva, troppo Radio 24. Ti sei abbonato al podcast, vero? Sì, assolutamente. Ah, okay, quindi adesso appena arriva ti ascolti anche RadioTube, ti chioccioli e ti scrivi con l'hashtag. Sì, il vostro hashtag, no, vostro, nostro, loro, del Sabato del Villaggio è quello che assomiglia a un partito, no? Sì, com'è? Com'è? H è l'Italia dei valori. No. Il sabato del villaggio, mentre facile. Quello di Radio YouTube è cancelletto RadioTube, però se scrivete anche al primo non mi offendo. Et Marta Cagnola et Di Bellasio invece sono i nostri hashtag. Benissimo, siccome questo è il ponte di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, beh, sai, un ponte per i milanesi, un ponticello, perché i milanesi perché il 7 cade di domenica, quindi sono mezzi fregati. Ma i milanesi tanto devono lavorare, non è che vogliono giorni in più di vacanze, eh? Beh sì, certo, poi si va alla Scala meglio, domani meglio concentriamo le feste, Sant'Ambrogio, l'Immacolata. Tutto ecco insieme. Però siccome ci sono le feste, tu volevi regalarci o regalarmi? Ma sai cosa c'è? Io volevo cominciare a fare un po' di bilanci dell'anno. Li faremo per bilanci, un mese, sì. Bilanci. Le cose più belle, 2014, le classifiche. Sì. C'è un duo, sì, si chiamano As the Duo. Lei è anche molto bella. È professionale o no, sono degli YouTubers. Ah, YouTubers. Quindi a metà strada, nella terra di mezzo. Sì, ormai, cioè, ormai nel mondo sono di mezzo tra ormai sono più professionisti gli YouTubers di sì, quelli, esatto, che... tu ogni volta mai... io dico ha trovato questo molto spontaneo, molto dilettante, ah c'ha dietro questo producer, ah, adesso fa VJ, fa un film in America, vedi, cioè, noi li chiamiamo e loro vanno a Los Angeles e noi rimaniamo sempre qua, sì, però portiamo bene, però portiamo bene. Vabbè, allora loro si chiamano cantanti. Ast Duo, sì. Lui è molto carino, ma lei è bellissima, lei è veramente lei è sì. una bellezza fulminante. Cosa hanno fatto? Cosa hanno in 2,5 minuti tutte le top hits, le più grandi hits del 2014. Guardiamone alla radio, soprattutto notate lei quanto è bella alla radio. Sì. Qualche secondo. I'll give you all of me. And you give me all of you. Oh. 'Cause a player's gonna play, play, play, play, play. Haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Shake it off, shake it off. 'Cause in a sky full of stars. Quante ne hai riconosciute di queste canzoni? Appunto, ho riconosciuto una canzone e un gruppo. Ah, cioè, bene, la canzone bene, bene. Dei Coldplay e i Maroon 5. Tutti gli altri, non so perché... Niente, non ti mancavano. Ma come mai, secondo te? Perché non esistono più trasmissioni tipo Radio DJ, non lo so. Quelle... No, ma esistono ancora. Noi siamo troppo anziani per stare il pomeriggio ad ascoltare la radio. Bisogna siamo seguire al lavoro. Su YouTube la musica, bisogna perché seguire... passa per lì. Sì, perché ormai, allora, lo streaming e sì. i video, che perché i ragazzi guardano tantissimo i video... Ascolterò la abbiamo musica. Abbiamo parlato anche la scorsa settimana con Enrico Pagliarini. Sì, i ragazzi guardano molto i video. Guardano allora, la musica. Questo video ha già avuto 1.142.800 sì. visualizzazioni. 2,5 minuti, top hits del 2014. Vabbè, c'erano John Legend, Taylor Swift, appunto, i Coldplay, sia Chandelier, che è la mia canzone del 2014. Ah, quindi tu le hai riconosciute tutte? Io però. Le ho riconosciute, sì. Quasi diciamo che sì, sì. Allora le mie due canzoni del 2014. Ci sono sicuramente Rude dei Magic, che è bellissima, e poi sia di Chandelier. No, io e... voto per quella dei Coldplay. Quella dei Coldplay. Perché conoscendone due. Diciamo che non è che c'era tanta. Lo so. Però la cosa che mi è piaciuta di questa canzone sì. di Sia, io ti ho anche mandato il video, poi lo twitto agli sì. ascoltatori perché non si può far vedere. È quel ragazzo che lavora alla PlayStation, cioè nel senso proprio all'azienda, sì. e che ha perso una scommessa e ha dovuto rifare il video di Sia uguale uguale. Cioè un ragazzo un po' in carne, un po' barbuto, sì. che ha dovuto ballare esattamente come Sia nel video di Chandelier. E tu minacciosamente mi hai detto non perdere mai una scommessa con me. Quindi chissà cosa potresti inventare. Te immagini che bello. Ma non lo so, però di solito il prezzo di una scommessa si decide al momento della scommessa. Sì, bisogna anche decidere la scommessa. Adesso okay. comincio a inventarmela. Comincio a inventarmela, sono mai. Disposta a mettermi in gioco. Dunque, però questa è l'Italia degli stanchini. Perché comunque sì. quel genio della comunicazione di Beppe Grillo, anche sì. quando prende delle decisioni politiche particolarmente controverse, sì. le prende con un brand significativo. Ha detto sì, non è l'unico in Italia, no, però lui almeno questo diciamo che sì, se la sì, cavizia, sì, sì, insomma, sì, sì, tanto sì, criticato sì. per tante cose, sì. però. E quindi ha detto sono un po' stanchino. L'ho già sentita. L'abbiamo già sentita. Allora io, chissà perché, ho ritrovato un pezzo di video che non avevo capito essere anche un esperimento sociale, come dite sì. voi intellettuali. Come dicono soprattutto i ragazzi che fanno questi video e sono veramente carini, perché si mettono lì a fare, noi le chiamavamo candid camera, sì. loro invece le fanno con l'intento di dimostrare peraltro qualcosa. Peraltro questa non è la solita in cui si deve dimostrare che gli uomini sono tutti dei broccoloni che vogliono broccolare. Sì, io dei musoni oppure cioè, sì. no, è senza stereotipo questo, no? Sì. Gli esperimenti non devono avere una tesi precostituita, sennò che o devono, non lo so. Diciamo, lui si chiama Federico Clapis. Cosa ha fatto? Ha finto, giusto? Sì. Di essere, cioè si è un po' reso Forrest Gump sedendosi a delle panchine aspettando a una fermata dell'auto. No, proprio sulla panchina sulla con panchina, la scatola di cioccolatini e dicendo più o meno le stesse cose di sì, Forrest senti Gump. Senti come è andata almeno con il primo ecco. che ha incontrato. Papà diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. La vita? Cioè in che senso? Mamma così diceva, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Ma io direi altre cose, insomma, cioè una scatola di cioccolatini non ha senso, la vita, diciamo, è fatta a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Eh già. C'è chi parte dal basso e riesce ad arrivare in alto, però chi sta in alto è facile scendere, quindi bisogna avere equilibrio in tutto. Io sono nato a Winston in Alabama. Ah sì? E come mai stai qua? La vita mi ha portato qui. Vedi? La vita. Cioè lui ha fatto Forrest Gump e ha trovato uno che gli ha dato corda, che aveva voglia di chiacchierare. Sì, ma la voglia di parlare, basta social network, il vero social network è la panchina sotto casa. Sì, no? Sì, o il bar, diciamo noi, o il bar, io ce l'ho il bar la fermata giusto. Dell'autobus, tu sì, c'hai sì, il bar sì. giusto. Io c'ho il bar giusto in dove Vin parlo, City. Sì, in Vin City dove ho tutti i vecchietti con i quali faccio tutte le mie conversazioni, perché il polso, la vita reale, qua altro che sempre vero social. Vero Twitter. Sta per arrivare un ospite e io so che tu sarai che molto ospite, contento finalmente. Di questo ospite. Io volevo parlare di questo argomento da secoli, decenni. E finalmente è il momento. Finalmente è il momento, però prima ci fermiamo un attimo, giusto? Sì. Perché dobbiamo conoscere che tipo di traffico c'è nel sabato del villaggio, il traffico del villaggio. Il traffico del villaggio il sabato pomeriggio è importantissimo, eccolo, eccolo. Qua. Radio Tube. E dopo il traffico io l'ho detto che avremmo avuto un ospite straordinaria, c'è l'apostrofo tra un e ospite, però non voglio ancora svelare chi è straordinaria, non sveliamolo, voglio entrare un po' nell'atmosfera. Sì, con un video che mostro alla radio. Valeria, comincia a mostrarci un po' questo video. I've got chills. Daniele l'ha riconosciuta, è la canzone di Grease, The One That I Want. Sì. Però è una versione un po' particolare di questo cantante indie che si chiama Lo Fang. Sì. E questo è l'ultimo corto pubblicitario di un notissimo profumo contraddistinto da un numero. Inizio a capire che qualcosa. È un po' come dire la crema al cioccolato più famosa del mondo, la bibita con le bollicine. Non lo diciamo, però è numero un numero 5. Sì, quello che sta tra il 4 e il 6, è un profumo francese che sta tra il 4 Vabbè, insomma, e il 6. Si capisce. La protagonista del video è Gisele Bündchen. Mamma mia, quanto è bella, sì, una è roba proprio esageratissima. 7 milioni in un mese e mezzo, anche ecco. Perché è stato diretto da Baz Luhrmann, quello di Moulin Rouge, insomma, bello. Poi mi piace un sacco questa colonna sonora. Però nella nostra follia, questo perché? Che cosa vuol dire? Perché? Cioè, noi mandiamo alla radio dei video e adesso pretendiamo di parlare di fare la radio in odorama. Sì, oppure, e di parlare parlando di un libro però, quindi cioè, ci sono tutti i generi messi assieme. Quindi abbiamo il libro, sì, abbiamo il profumo, l'audio e abbiamo anche l'ospite. Esatto, in studio peraltro. In studio, la introduci tu perché so che sei anche un po' emozionato. No, sì, insomma, sono un fan. Abbiamo in studio Giovanna Zucconi che ha scritto un bellissimo libro che si intitola... Dimmi, aiutami. Adesso lo twitto anche la copertina perché ce l'ho davanti. La sua voce è profumo. Oscar Mondadori. Buonasera Giovanna. Buonasera a voi. Ho molta paura. No. Che bello, sì, la sua voce è profumo. Già tutta sta sinestesia, sì, a me mi viene tutta una roba romantica qua, che proprio ce l'ho tutta qua. Beh, poi la radio l'ha fatta tanto, tanto quindi assai. La voce e il profumo. Giovanna, intanto ti chiedo perché insomma un lavoro sul profumo non è scontato, soprattutto scriverne è difficile. Beh, intanto perché non c'è più la radio, quindi ho dovuto fare qualcos'altro. Giovane imprenditrice anziana, una piccola azienda di profumi di lusso, di qualità, di ricerca anche artistica. C'è chi dice che fare profumi è un'arte, quindi ci sta mettere in collegamento con il design, con le arti figurative e con la letteratura. Ci sono tante cose che poi ci siamo segnati perché e tu hai studiato. Leggiamo e prendiamo appunti. Mi piace molto il rapporto tra il profumo e il peccato, perché il profumo tocca molto. Io pensavo il profumo all'amore, tu il profumo io subito il peccato. Vabbè, Giovanni, no. Devo prendere parte, cioè scegliere fra amore e tra peccato. Tra amore e peccato? Beh, oddio, beh, no. Sono lì, sono lì. Ammesso che sia un bipolarismo. Niente più bello di peccare amando e amare peccando, Però ovviamente l'odore e il profumo, che è, diciamo, un artificio, una creazione, ha a che fare, no? con l'attrazione o appunto con la repulsione. L'uomo non è l'animale che ha più capacità olfattiva, questo lo sappiamo perfettamente, però è l'unico che crea dei profumi, cioè che costruisce artificialmente degli odori, e lo fa secondo delle tecniche, delle caratteristiche, dei gusti, delle mode che cambiano attraverso le epoche. Alcuni profumi molto forti, molto animaleschi, proprio di origine animale, lo zibetto, l'ambra grigia, che provengono proprio dalle viscere di alcune specie animali, sono stati accettati e praticati per secoli proprio perché potenziavano l'odore del corpo. Qui stavo optando per la variante, diciamo, meno romantica e più carnale, ma poi c'è stata una, chiamiamola così, rivoluzione olfattiva alla metà del Settecento, secolo in cui ci sono state alcune rivoluzioni, fra cui questa, e tutto quello che sapeva troppo di corpo, di sesso, eccetera, è stato considerato disdicevole. Come viene fuori anche dal racconto nel tuo libro, come dice Whitman, mi sono segnato nelle citazioni, no? Il profumo, bravo, è molto la nostra identità, no, un autoritratto, dici. Certo, tutti scegliamo uno o più profumi a seconda delle epoche, dei giorni, del momento, di chi dobbiamo incontrare, no, per raccontarci, ma perché intuitivamente sappiamo che dice tanto di noi. Sì, infatti. Qui c'è un po' un problemino di cultura generale, no? Perché tu, ma forse persino tu distingui fra, non so, Picasso e Piero della Francesca, più o meno capisci che sono diversi, o non so, Mozart e Jovanotti, ma non accade altrettanto per invece gli odori, i profumi, appunto le costruzioni artistiche o artigianali in questo campo qui, che invece sono altrettanto diverse, altrettanto connotate. Posso fare un saltino indietro, sì, parlando di libri? Me lo concedete di fare un saltino indietro a Pickwick? Ma fai quello che vuoi, non sì. Diciamo di quanti Mamma anni fa, mia. Un 20... paio d'anni fa. 20. Un paio di decenni fa, allora, vabbè, ma eri quanti una bambina, eri una bambina, una quanti bambina, sentiamo questa bambina in un... Che intervista piccolo... un bambino? Sì, anche lui, oddio, un piccolo è? Estratto da Pickwick. Chiede alla polvere un libro di uno scrittore capace di raccontare le emozioni. Bukowski dice: Fante era il mio dio. Di questo libro, Chiedi alla polvere, parliamo questa sera con Francesco De Gregori. Prima di tutto, è vera questa paternità Fante-Bukowski, ti convince? È sicuramente vera, perché la cita, la ammette Bukowski con un gesto di grande generosità, no, intellettuale, perché lui dice: il mio ispiratore è stato Fante. In Italia sicuramente Bukowski oggi è più conosciuto di Fante, vorrei dire che questo un po' è un peccato, perché secondo me Fante è scrittore migliore. Beh, che bello che in rete ci siano ancora, per la verità, non tantissimi estratti di Pickwick. Non è che ne abbiamo trovati proprio tanti. Ho cercato tanti. Di eliminarli uno a uno. No. Hai scritto a YouTube. Che cosa ti pare rivedere? Che effetto ti fa? Beh, commovente per il mio eroismo di allora, perché io allattavo e andavo da Milano a Roma con un tiralatte, scusate il dettaglio orribile, registravo delle cose apparentemente coltissime e tornavo su come la mucca Carolina. Insomma, questo era più o meno lo scenario, sì. Io l'altro giorno chiedevo a un po' di amici, mi pare di capire che di trasmissioni dedicate ai libri in TV oggi, solo ai libri, perché ovviamente Che Tempo Che Fa parla di libri e li fa vendere, tutto il resto, però una trasmissione dedicata solo a lui non c'è più. No. Beh, ma questo è sbagliato. Mentre facevamo Pickwick con Alessandro Baricco, 1994, c'erano Fruttero e Lucentini su Rai 1, poi c'era su Video Music la Loi, poi c'era la Bignardi su Italia 1, a tutto volume forse. A tutto volume. Insomma, c'erano 5 o 6, ma sulle reti maggiori. Quindi le ipotesi sono due: o si è rimbecillito, diciamo, il popolo italiano nel suo complesso, e in particolare la fascia di chi legge, oppure si valuta che sia meglio non... No, eccetera. Perché poi la cosa assurda è che dicono: bisogna fare trasmissioni a basso costo, facciamo tutti i talk show perché non dobbiamo spendere. Ma una trasmissione dove si raccontano dei libri dovrebbe essere anche una trasmissione non particolarmente costosa. Però non devi chiederlo a me, sai, perché... Ma ti sarai fatta un'idea? No. Non mi sono fatta un'idea, sì, sì e no, nel senso che mi pare che sia una politica complessiva questa, no? Di non favorire particolarmente un certo tipo di linguaggio anche televisivo e anche radiofonico, forse volendo meno, però molto meno, la radio è sempre meglio. La verità è che tutti leggiamo molto meno, perché dentro il tablet, cioè dentro uno stesso oggetto, tu hai già la concorrenza, perché sì, tu devi decidere se rispondere alla mail, giocare a Candy Crush o leggere John Fante. Che stavo dicendo, capisci che il romanzo è Candy Crush, sì, nell'iPad, che io faccio un po'. Sì, sì, io ho una mia tesi, che è questa. Però, per esempio, Gargantuano, forse mancano, come dire, gli incentivi, le persone, oppure la voglia di sperimentare. Gargantuano era un programmino che avevo fatto io a tardissima notte qualche anno fa, si parlava di libri e di altro, ti nomino re del mondo, no, non ma so, presidente senso, della RAI. Nel senso che a me mancano, io ho letto un sacco di libri grazie a trasmissioni di questo tipo che me li rendevano affascinanti, avevi voglia di uscire a comprare un libro come di uscire a vedere un film in televisione, sì, o comprare Candy Crush, che non c'è niente di male. Prima di dare la linea alla nostra pausa per qualche istante, visto che abbiamo sentito questo brevissimo estratto di questo Pickwick che è in rete con Francesco De Gregori, la scorsa settimana ha fatto questa, sì, cosa che, come si suol dire, ha fatto il giro della rete, si è messo a cantare con Checco Zalone. Sì, e oddio, non... all'inizio era un po' ha un po' voltato la schiena. No, no, però poi non ce l'ha fatta, dai, ascoltiamone, sì, guardiamone un pezzettino alla radio, poi ci ritroviamo tra poco sempre con Giovanna Zucconi, la teniamo con noi ancora per un po', la teniamo con noi. Assolutamente, vai, sentiamo. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti. No, no, ma però no, c'hanno le ali per volare via con la fantasia da questa loro atroce malattia. Grazie, grazie, grazie Checco, grazie gente, grazie ragazzi. Grazie a tutti, mi hai regalato un sogno. Ciao, grazie, sono commosso. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità vi racconterò tutti i segreti e le storie dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni domenica alle 16.30 a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. La mia banca è la mia, in tutti i sensi. La sento vicina quando devo chiedere consigli, quando la mia banca chiede consigli a me. Riccardo Cotarella crede che banca e impresa debbano dialogare, mettendo a confronto le proprie idee per costruire insieme le soluzioni di cui hanno bisogno. Mestiere Impresa è il nostro modo di credere negli imprenditori italiani, come lui. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con tre taglie di rata, small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da 109 euro al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a dicembre, TAN 0 e TAEG 287, anticipo 1.800 euro. Info su Volkswagen.it. Stanno per arrivare i natalissimi Unieuro. Dal 9 al 24 dicembre, ogni giorno un prodotto delle migliori marche con uno sconto mai visto. Unieuro. Batte forte. Sempre. Ogni anno, quando il 25 dicembre si avvicina, la parola regali di Natale sembra un incubo. Avete solo un modo per esorcizzarla. È il solito. Scriverci una storia. C'è stato un regalo natalizio che ha davvero avuto quel significato, che è stato un vero regalo, gratuito, inaspettato e soprattutto rilevante per la vostra vita, perché ve l'ha cambiata, perché ve l'ha migliorata. L'indirizzo è sempre quello. Voi siete qui, @radio24.it, la storia del regalo di Natale che in qualche modo ha cambiato la vostra vita. Lo racconteremo in diretta alle 16, giovedì 11 dicembre, dal Pirelli Flagship Store di Corso Venezia numero 1 a Milano. Una marcia in più alle tue difese? Su con Sustenium Immuno Energy. È Menarini, in farmacia. Vi presenta... Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. La giornata di domani vedrà ancora gli effetti sull'Italia di una circolazione di bassa pressione, con un'instabilità più evidente sulle isole maggiori lambite da un primo nucleo di aria fredda che farà calare le temperature un po' su tutta l'Italia. Per quanto riguarda il tempo, al nord infatti avremo dei residui fenomeni in mattinata sulle Alpi Marittime, sull'est della Lombardia, in Veneto ed Emilia-Romagna. Prime schiarite invece sulle Alpi al nord-ovest. Sulla penisola avremo residui rovesci in mattinata sul Tirreno e qualche pioggia nelle Marche. In serata peggiorerà sull'Adriatico, ancora instabile nelle isole con il rischio di locali rovesci e temporali. Le temperature saranno in lieve calo. Sarà ventoso sul settore ligure in Sardegna e Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it e con questo è tutto. Luna dopo luna scorre il tempo amico. Dalle piccole botti di legno, le prime gocce per il mastro distillatore. Ecco le 18 lune, grappa stravecchia, le 18 lune, l'arte di saper aspettare. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Se tu cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it. Se tu cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Astigiano, Monferrato, Le Langhe. Terre uniche al mondo, dove nascono i grandi vini e gli spumanti Duchessa Lia. Grandi DOC e DOCG, ideali in ogni occasione. Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte. Suona l'allarme di casa! Corro subito a vedere! Ti accompagno! Che sarà successo? Allarme furto zona ingresso. No, suona anche il tuo allarme. Dobbiamo correre anche a casa tua. Tranquilla, io ho Combibox e posso controllare dal mio telefonino quello che è successo. Combibox, l'ideatore del primo antifurto GSM, crea sistemi di allarme professionali per controllare casa e ufficio dal telefonino. Vai su combibox.it. Guarda anche tu sul mio telefonino. È Fuffi, il gatto del vicino. YouTube. Rieccoci insieme dopo la pausa, sempre con la nostra ospite Giovanna Zucconi. La sua voce e profumo, cioè non solo la voce di Giovanna Zucconi e profumo, ma questo guardi è il titolo. Vabbè, cattivello. Ma scusa, ma no, sai ma, cosa ma sai successo? Che si lamenta sempre? No, ma no, si lamenta sempre. Niente, no, bene. Fammi dire, per bene, la sua voce e profumo è edito da Oscar Mondadori, che io mi sono divorata in una notte perché ho scoperto un sacco di cose sul profumo, la letteratura. No, sai cos'è la cosa bella? Dopo aver letto il libro di Giovanna, sì. Ogni libro che l'avete letto tutti e due? Tutti sì, due, però sì, abbiamo sincronizzato gli orologi. No, adesso i libri che leggo, sì? E trovo tutte le cose legate ai profumi. Per esempio sto leggendo Giuda di Amos Oz. È pieno, non me ne sarei mai accorto, ma in realtà è pieno, perché alcune descrizioni, senza descrivere anche quell'aspetto che non può essere descritto con le parole, non sono divertenti. Comunque ti segnalo, sì? Che il nostro grande Christian Goldoni ci, sì? Segnala che, sì, forse a gennaio su Rai 3 riparte per un pugno di libri. E noi aspettiamo, no, stiamo a vedere forse, se riparte. Quando però tu volevi far parlare Giovanna. No, volevo coinvolgere Giovanna sul bell'uomo della settimana. Chi è che non lui? È a parte Daniele Bellasio, Bellasio, ecco, che non è Daniele Bellasio, no, per una volta. Anche perché non faccio quelle foto lì. Dai! E non sono un new normal. La foto nel lettone, tu un po' pelosone, vista, con l'occhio un po' così languidino. Un po' di sguincio, insomma, no, basta. Poi basta. L'ho fatto in modo di non vederla non mai hai più. Hai visto anche, sì, solo la copertina o anche le foto interne? No, che foto interne, ma sei matto? Cioè, c'ho una mia ecologia mentale da mantenere. No, non vedo altro, se mai, nella copertina di oggi Matteo Salvini è in quella, sì, posa lì con l'ascella. Tu mi hai fatto notare che poi, dentro era pure peggio. E poi ho detto scusa, no Daniele, però apri perché dentro ci sono delle foto ancora più. E hanno inventato sta categoria del new normal che mi fa, certo, molto ridere, che certo, c'è il new dopo normal. L'uomo depilato, l'uomo con la six pack, con la, sì, tartaruga, l'uomo con un po' di pancetta che si fa fotografare con l'occhio. Ma siccome in radio non possiamo mostrare un video che è una foto, no, cosa mandiamo? No, mandiamo, se... un video che è un video almeno. No, e allora Matteo Renzi, che non ne parliamo mai a è Radio stato Più. In televisione, sì, guarda, cioè, non lo so, evidentemente l'hanno costretto, hanno detto guarda, per una volta Matteo, vieni, per una volta in esclusiva, dai, provaci, so che non ti piace. E Matteo Renzi si lamentava che c'è sempre in televisione Salvini, perché c'è sempre qualcuno più televisivo di sì, te. Sì, Renzi, Travaglio e Mentana a bersaglio mobile, ovviamente chi vince tra tutti è ovviamente Enrico Mentana, ecco qua. Io ho sempre detto, e glielo ho detto anche all'inizio di questa trasmissione, prima che lei facesse la domanda, e glielo ridico ora, e glielo ridirò in modo arteriosclerotico fino a domattina, quando mi porteranno via, da qui ci sarà Omnibus e ci porteranno via, magari ci sarà Salvini ospite, o Landini, o la Camusso, qualcuno che non va mai in TV. Quando noi arriveremo a lei questo... è il secondo che va in TV dopo no, Salvini, guardi, attenzione. Da quando faccio il Presidente del Consiglio... Lui resta vestito, questo, almeno questo vantaggio spero stasera lo mantenga. Vabbè, almeno lei resta vestito, Mentana ha ragione. Era dai, simpatico persino a Travaglio, eh? Molto simpatico, sì dai, sì, dai, fa il sorrisino. Sì, sì, dai, ce la possono fare. Vabbè, cioè, non abbiamo... Chiedi qualcosa a Giovanni. Non siete riusciti a coinvolgermi No, questo. Infatti, no, voglio vedere dove vuoi arrivare. No, perché? No, invece abbiamo parlato di una cosa fuori onda, cioè quanto queste cose ci distraggano in realtà dai veri problemi e i veri problemi della cronaca, perché sono successe delle cose pazzesche in questi giorni e soprattutto insomma il problema di Mafia Capitale, ma quel giorno lì Twitter era tutto sulle foto di Salvini, cioè è un bel diversivo, sì, un meccanismo diabolico, sì, peraltro la scella mi fa pensare che col tema dei profumi un po' sì, c'entri, esatto, effettivamente si potrebbe, sì, ecco, proprio sì, volendo, ma certo che c'è comunque sempre la concorrenza di qualcosa di più facile anche, no? Di più diretto, di più semplice, di più divertente. Tutti abbiamo un po' di gusto dell'orrido. Le schifezze, un pochino, piacciono a chiunque, anche a Umberto Eco, insomma. Però sta di fatto che bisognerebbe affiancarle a una percezione della realtà meno frammentaria, meno... Ecco, poi su Roma, sulla mafia romana, il vero problema è che non è tanto una notizia. Cioè che è scoppiato un bubone, ma si sapeva che c'era quella cosa lì, no? E soprattutto ahimè, che tutti poi dicono lo sapevamo e dici vabbè, ma e quindi certo, grazie. Ma infatti viviamo in un paese lunare, secondo me, no? Ma come, ma quando mai? Ma prova ad andare in Germania, a Londra, in Spagna, ma anche altrove e dire ma però un terzo del paese è sostanzialmente governato dalla criminalità organizzata. Poi hai la mafia che... Ma come? Ma invece questo elemento di romanzo che dalla cronaca nera emerge, no? Non si riesce quasi a distinguere tra quella che è cronaca nera e romanzo, romanzo criminale, appunto, giudici che hanno scritto libri, libri che nascono da inchieste giudiziarie. A Roma poi questo è ancora più forte. Che impressione ti dà? È un modo per sviare l'attenzione ancora? Oppure un modo per capire di più le cose? Temo entrambe le cose. Io, in quanto figlia di integerrimo magistrato, per sua fortuna ora in pensione, ho un rigore un po' rigido su tutto questo argomento. Per cui, insomma, leggo divertendomi certi libri, guardo divertendomi un po' meno perché mi sembrano un po' agiografiche certe serie televisive in cui il malavitoso diventa fichissimo, quasi sì, un eroe, sono belli. Però insomma poi non è neanche quello della raffigurazione, della rappresentazione il problema è la sostanza. Cioè che se tu guardi tutti in fila i titoli di un qualsiasi momento, di una qualsiasi homepage di giornale online, ci sono 22 storie di marciume assoluto, sì, in tutti i campi, pubblico, privato, politica, sport. E insomma bisogna decidere se perdere la speranza o ritrovarla da qualche parte. O arrabbiarsi moltissimo, variante Bombarolo, ogni tanto viene voglia, no? Sì, la rete a volte fa arrabbiare moltissimo. Tu che rapporto hai con i social network? Come diceva prima Marta, a volte i social network sembrano o occuparsi con rabbia di cose molto piccole, quindi non della sostanza, come dicevi tu, oppure cazzeggiare, insomma, parlare di altro sempre comunque. Diciamo che la prevalenza della minchiata, per dirla proprio in termini sì, tecnici, c'è, no? E quindi bisogna tirar su delle difese. Io ho le mie, se mi scrivono a un gruppo su Facebook mi disiscrivo e cancello anche, elimino fisicamente chi mi ci ha scritto e metto in mute un sacco di gente su Twitter, non voi due. Prego. Insomma, nel senso che ci si difende un po', però credo di nuovo che ci sia quasi un problema neurologico che non va giudicato ma va osservato, no? Perché È la prima volta nella storia nostra sicuramente, ma anche forse del genere umano, che ti piomba addosso una tale quantità di informazioni. Nessuno sta più dietro a niente in realtà, no? Perché tu hai la mail, poi un'altra mail, poi forse la terza casella mail, poi c'è Twitter più di un account, poi c'è Facebook, l'altro Facebook quello di lavoro, poi c'è WhatsApp, poi c'è un telefono, ma adesso però bisogna averne anche due. Come fai a gestire questa quantità, questa pioggia, questo diluvio, questo tsunami di pezzettini di informazione? Sì. Non ce la fa nessuno. Però è anche bello farsi avvolgere da questa specie di ondata di attenzioni sceme, intelligenti, ma non distingui più, non è più la gerarchia. Non sai più cosa devi far per primo. Sono d'accordo. Tra noi ogni l'altro, tanto sì. ci scriviamo sì. contemporaneamente sì, sì, in DM, sì, WhatsApp, infatti, vabbè, mail. Tutto insieme e non infatti, si sa più cosa ci stiamo dicendo. Ironia amara, abbiamo parlato di Mafia Capitale. C'è la Sora Cesira, che è questa entità misteriosa che fa delle parodie e dell'ironia molto tagliente, che ha fatto i Carmina Burina. Sì. Molto molto amari. Questa è la definizione. Sì. De Raccontis Scandalorum Urbe Romana ad Operam Ladronis Infamonis et Corruptis Assessori Fraciconi. Questa è la definizione dei Carmina Burina della Sora Cesira, che fanno così. E devo recitare: est da quel dì in hic urbis magnabant proprium tutti, et mafie clan quae dominat cum magno boss ercecato, pro comanda ama atac pecunie assai sborsavit. E diciamo che è un latino molto comprensibile. Brava Sora Cesira, sì. Ironia tagliente. Boh, magari il messaggio passa anche così, non lo so. Io mi sono arrabbiata assai, anche se la cosa che mi ha fatto più arrabbiare questa settimana tra rete e io ho voluto non prendere neanche un audio di questa cosa, è stato come è stata trattata la cronaca, un caso in particolare di cronaca nera, la morte di un bambino in Sicilia, come è stato ucciso, cosa è stato trovato, cosa non è stato trovato. Ce ne libereremo mai dell'attenzione alla cronaca nera? Però senti, è quello che dicevamo prima, no? Cioè che ciascuno di noi, dicevamo anche Umberto Eco per ridere ovviamente, ma insomma ha un pochino di morbosità proprio per l'infimo, certo che c'è. Io ho visto peraltro la foto delle mutandine del piccolo Loris sul Corriere della Sera, insomma, quindi sì. La rete non esiste, no? La rete è tutto e non è niente, è uno spazio in cui vedi delle cose che ovviamente ci sono anche altrove. Allora, intanto bisognerebbe cercare di capire se i giornali devono virare verso questa fanghiglia, questo nulla, nel tentativo mimando qualcosa che secondo loro è vivo per tentare di salvarsi. Questo punto di domanda io non credo, per esempio, no? Se vuoi essere una, se vuoi esistere, se vuoi essere un'altra cosa, beh, devi essere un'altra cosa, non i titolini, è tutto il caso, shock, ma shock di che? Cioè se c'è scritto shock 22 volte in una pagina di giornale, sì, o di giornale, sì, online, non lo è più nulla, quindi non lo vai più a vedere, quindi non è più quello che dovrebbe, vorrebbe essere, no? È ecco. Una sorta di phishing costante, sì, anche sì. Questa settimana un altro dei video più visti è Matteo Renzi che telefona a telefonata a shock. Tra l'altro lui si è anche arrabbiato per una telefonata normalissima durata sì, 30 secondi. 30 secondi in cui si sentiva ciao. Esclusiva telefonata. Bah. Scusa, però io ho la glossa pignoletta. Non solo è tutto shock, ma è anche scritto in 6 maniere diverse. Perché scrivono S-H-O-C-K. S-C-I-O. Tu per quale propendi? Ma io anche per nessuno, cortesemente. Però se esiste il caporedattore shock, e suppongo ci sia, perché ormai datevi delle regole, datevi una regoletta, insomma, sì. Fateci capire almeno cos'è sciocco. Però, ecco, io propenderei per all'inglese. Io però, sai che io sono francesista, quindi però è arrivato il momento di salutare la nostra ospite, ahimè, Daniele. Sì, che però riavremo presto. Per forza, sì, per forza. Intanto consigliamo il libro. La sua voce profumo, visto che non ci sono le trasmissioni di libri. E non ci sono le trasmissioni neanche in odorama. No, a Radio 24 ci sono, di la verità. A Radio 24 c'è la nostra Alessandra Tedesco che salutiamo. Io ringrazio Giovanna Zucconi per essere stata con noi. Grazie Giovanna. Vi ringrazio tantissimo, io vorrei star qui con voi per sempre. Magari. Noi ti ospitiamo ancora. Ciao. Grazie. Strade in diretta. Poche le segnalazioni per chi è in viaggio in questo momento. Traffico è intenso e rallentato sulla 22 del Brennero tra Affi e Trento in direzione del confine. Trafficato anche il raccordo Bettolle-Perugia con code proprio nella zona di Perugia in direzione della statale 3 bis Tiberina. Infine prudenza per la nebbia a banchi sulla 15 della Cisa, visibilità ridotta tra Borgotaro e Pontremoli. È tutto per il momento, ci risentiamo tra mezz'ora. Promo 24. DS presenta DS My Drive, il nuovo noleggio a lungo termine riservato ai clienti privati DS. Una formula innovativa che ti propone un'offerta all inclusive. A dicembre con DS My Drive hai DS4 a 399 euro al mese. Un canone mensile che comprende tutti i servizi legati alla tua DS. Manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione RC auto, furto incendio, bollo. E al termine del periodo di noleggio riconsegnerai la tua DS4 senza alcuna preoccupazione legata alla gestione dell'usato. Solo con DS My Drive puoi avere tutta la comodità di un unico interlocutore, il tuo concessionario e la certezza dell'investimento con un budget controllato e senza spese straordinarie. Scopri maggiori dettagli su citroen.it. Con DS My Drive pensi solo a guidare la tua DS4. Fondi, bot, BTP, PAC, obbligazioni, conti di deposito. Prima di investire, meglio essere informati. Giovedì mattina all'interno di Cuore e Denari non perdete Investire Informati. Investire Informati. Il nuovo appuntamento per conoscere i principali strumenti finanziari e orientarsi nel mondo del risparmio e dell'investimento. Investire Informati. Ogni giovedì alle 11.45. Solo su Radio 24. YouTube. Come vola il tempo quando ci si diverte, quando ci sono gli Vedi ospiti belli. Vedi perché volevo parlarne da tanto tempo. Lo so, hai ragione. Non hai mi ragione. Ascoltavi. No, ma se ti ascolto sempre. L'unica cosa che faccio sono le scalette a tradimento. Le cambi completamente, inserisci delle cose sfruttando la mia ignoranza pop senza lacune. Io lo dico agli ascoltatori, prima mando la scaletta a Daniele. Sì. Poi, Daniele la cambi. Poi la cambio. Poi la cambio. No, e la mandi con dentro tutte cose di politica, tutte cose su cui io dico, vabbè, non devo studiare stavolta. E poi dopo cambia tutto. Ma sì, vabbè. Perché mi piace stupirsi. Senti, la cosa che stiamo speciali. Per mandare in onda alla radio è veramente impossibile, perché bisognerebbe vederla davvero stavolta. Allora, facciamo un blocco natalizio, parliamo di Natale. Sai che l'ultimo io già ho già messo la l'albero. No, l'albero no, ho già messo una ghirlanda così per far finta che ho messo delle l'albero cose si a fa casa. Questo weekend qui. E non ce devo comprare, non ce l'ho. Vabbè, io lo faccio di cartone. Ah. Ho fatto 4 anni fa con Rocco di cartone. Sì, con le e palline. Rimetti sempre quello? Sì. Vabbè, ormai è grande, devi farne uno nuovo. E non lo so, finché a lui va bene allora, così. Ogni maledetto Natale. Ecco. Noi parliamo sempre di The Jekyll, ormai sì, gli ascoltatori questa volta lo hanno sanno. Fatto una cosa molto diversa. Hanno fatto un anti-spot per l'anti-cinepanettone, che è ogni maledetto Natale, così nei cinema. Suona il telefono addirittura, una cosa pazzesca, neanche nelle trasmissioni di Cruciani succede. No, guardate, la scorsa settimana... No, lo so, peggio di Cruciani sono diventato. Peggio di Cruciani. Lo so, peggio... però ho imparato dal maestro, era mio papà comunque. Sì, vabbè, andiamo avanti. Va bene, che dovrebbe sapere che a quest'ora sei in onda, però signor Bellasio è in onda. Ma forse doveva dirci qualcosa sul Natale. Ah, può essere, va poi bene, glielo The chiediamo. Jackal. The Jackal hanno fatto questo anti-spot per l'anticine panettone ogni maledetto Natale. Cosa hanno fatto? Un video geniale prendendo in giro i film... di ogni regista italiano, sì. Con lo stile di ogni regista. Io ho scelto... C'è anche Sollima, il tuo preferito. Sì, però io ho scelto Sorrentino. Sì. Io, è vero, io ho scelto La grande bellezza, sì, eccolo qua. Io non volevo solo partecipare alla tombola di Natale. Volevo avere il potere di farla fallire. Vabbè, bellissimo Jeff molto Gambardella bello. Nella sì, tombola di Natale. Comunque è da vedere tutto il video, è da vedere lo consigliamo tutto, sì, perché ci sono tutte le citazioni. Sì, ci sono i fratelli Vanzina, che poi in realtà non è che abbiano neanche fatto tanti cinepanettoni, è un po' più Neri Parenti quel pezzo lì, è più che come più sei che prepar- Vanzina, come mi sei preparata. Però comunque, io voglio anticipare perché non voglio che tu salti questo in scaletta. No, mica vorrei saltare i Minions. No, tu stai scherzando. Ecco. Infatti ho detto facciamo un'ora in cui mandiamo solo i Minions. E hai scoperto anche la versione che dura 5 ore. C'è scritto sì, su YouTube. C'è qualcuno che ha messo su YouTube lo stesso video che dura una trentina di quarantina di secondi loopato per 5 ore. L'ha fatto per te. Per me. Io me lo guarderei, ma io metterei in loop quello da 5 ore. È la canzone di Natale. Di Natale. Del 2014. Di assolutamente. Guardiamoli alla radio. Io con i Minions ho 3 anni, cioè io divento matta. Però forse, ma io impazzisco. Ma scusa, fossimo dei bravi conduttori radiofonici, dovremmo spiegare chi sono i Minions. Cioè, dai, lo sanno tutti, sono i piccoli aiutanti di Cattivissimo Me. Adesso uscirà anche lo spin-off. Allora, lo spin-off esce il 10 luglio 2015. Ci portiamo avanti con sì, un filo. Nozionismo. Sì, sì, un 10 luglio 2015 e saranno le avventure di Stuart, Kevin e Bob, che sono i tre Minions, i tre quelli capi, gialli. Diciamo. Sì. Agli albori del tempo, cioè si evolvono dagli organismi gialli unicellulari, poi passano dal Tyrannosaurus Rex fino a Napoleone. Sono poi diventati però dei, sì, status symbol. Comunque dei... loro escono il 10 luglio 2015, ma sai che esce anche Despicable Me, cioè Cattivissimo 3, Cattivissimo Me 3, sai quando esce? Non lo so. Il 30 giugno 2017. No, sai già che esce, certo. Ma quasi un oroscopo. Ma non vedo l'ora, anni. Ma ho già il countdown. Ma non lo so, 30 sembra... luglio, vabbè, 30 giugno 2017 che sono 2017, già pronta. Perché adesso i Minion stanno girando l'altro e quindi sai... non possono girare. Certo, ovviamente. Scusami, poi certo. Se, sono sai che star... comunque è già pronto il regalo di Natale per te e c'entrano i Minions. Comunque, ho molta prego, paura, andare, ho molta paura. Allora, dai, sai chi festeggia musica di più in assoluto quando arriva Natale? Ma in assoluto? Non lo so, i negozianti, spero. No, Mariah Carey, perché lei ha scritto la canzone All I Want For Christmas e sì, ogni anno c'è cioè, il suo salvadanaio, din din din din, le arrivano un sacco di soldi. Ah, l'ha scritta lei? Lei con Walter Fanasioff. Che? Che è uno. Io pensavo fosse degli Wham, tipo. Ma quella è la Christmas. Cosa c'entra? Ma vedi che c'entra. No, allora, Valeria, scusa, metti in sottofondo metti All I Want For Christmas, perché non ha capito. Dani. Io pensavo che Mariah Carey facesse un remake di, della ma canzone degli Wham. Ma quella è la Christmas, cosa c'entra? Questa è All I Want For Christmas. Niente, però... Le canzoni di Natale sono un po' tutte uguali, diciamo la verità. Beh, sì. Cade tutti gli anni allo stesso anno, non sì, è come la Pasqua che è più però fantasiosa. Però le melodie, meglio i Minions allora. Beh, Minions non te toccarmeli. Allora, se, ma senti che brava. Brava, canta sì, proprio bene. Però? Sai che secondo Wikipedia è uscita l'8 dicembre del 94, quindi domani sarebbero 20 anni. Però solo secondo Wikipedia Italia, perché secondo le altre, vabbè, magari in Italia cambia, è uscita, vabbè. Comunque, senti che brava. Peccato sì, che però l'altra sera sì, lei ha cantato all'inaugurazione dell'alberone di Natale a New York e le hanno fatto lo scherzone. Cioè? Hanno isolato la traccia audio di lei che cantava dal vivo. Sì. E gli hanno messo gli UM di sottofondo. No, no, poverina. Cioè questa è quella del disco, quella che noi sentiamo in sottofondo. Sentiamo? Ma povera Mariah Carey. Io il file l'ho intitolato Crudele. Ah. Perché non si manda la colonna audio della poveretta che canta dal vivo da sola, specie se non è che canti proprio come 20 anni fa, eh. Make my wish come true. Christmas is you. E non è proprio... Sembra la mia voce di questi giorni un po' tronca sul finale. Cosa le è successo? Vabbè, vabbè, fa freddo. Sì, non era proprio al massimo delle sue possibilità, però poverina, non era neanche contemplato che lei dovesse farla... Cioè... Sì, come si dice, a cappella. Esatto, cioè... Però i fan l'hanno difesa, io ho letto, sì, l'ho visto, che comunque i fan hanno detto non importa, è sempre Mariah Carey, quindi non dovete criticarla, è giusto? Sì, poi, dai, poi è veramente... Io l'ho chiamato crudele, crudele. Perché non però si l'hai fa mandato così? Vabbè, tipico, notizia, no, delle conduttrici radiofoniche. È notizia, notizia. Ah, non si manda in onda certe cose, vediamo cosa hanno avuto il coraggio di mandare in onda e la mandino. E invece vabbè, vorrei salutarti perché il nostro tempo è quasi scaduto, con l'ultima versione di All I Want For Christmas, anche Wham, qui in no, sempre quella sempre la nota canzone degli Wham, che invece è stata realizzata in Italia. I don't wanna love for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Allora, lui è bravo, è Marco Carta. Tu sai chi è Marco Carta? Sì, lo so più o meno. Cioè, no, ha fatto anche dei reality, dei talent, Amici, io confondo un po'. Sì. Ha vinto, poi ha vinto Sanremo. Bravo, bravo. Sì, cioè, io sono più Tim Mengoni. Tu però... però bravo, Marco Carta ha cantato benissimo. Voce forte, tosta. Bravo, bravissimo, tutti lo prendono in giro in rete, non capisco perché. Però la prossima volta, se ha bisogno di un aiuto per la pronuncia in inglese, può anche telefonarmi e io... Va bene, sei diventata cattiva, così. Di solito a sotto Natale siamo tutti più buoni, però Marco crudele. Carta è bravo. Ok. Sono stata troppo cattiva con Mariah Carey? Con Mariah Carey, con Marta Carta ormai. Vabbè, meno male ormai che è finita, hai vinto tre ore di diretta. Ma le hai fatte tu, non io, ho sofferto per te. Va bene, va bene. Vabbè, il tempo è volato è anche volato per questo le sabato. Le feste si avvicinano. Le feste si avvicinano. Buon ponte a tutti. È certo, un ponticellino piccolo. Ponticellino. Lunedì noi ringraziamo Valeria Bernardi in regia, sì, per questa ora del sabato del villaggio. Ringraziamo anche Cristian Goldoni che ci ha dato una mano. Diamo l'appuntamento al sabato prossimo con il sabato del villaggio alle 15, invece con Radio Tube alle 17. E lunedì il podcast su radio24.it. Straordinario, buona serata a tutti. Ciao.